Tesla. Chi è? Io. Oui. Sto provando questo altro baracchino. Questo è l'87. Esce bene il radioprogramma, microfono normale. Questo no. Questo ti posso spatterare perché c'ha 50 watt. Però fammi dire che è fuori come l'altro. Questo è perfetto. No, questo è questo, infatti me ne sono accorto, ti ho controllato per quello adesso. Sì, ma chi lo fa? Tutto se te già lo sai. Quindi figurati. Non è modificato, però va bene lo stesso. C'è una cosa, Gigi Vulcan non voleva lavorare 150 euro. È stato venuto cioè, lì in Saturnetto, ma ce la faccio a mettermi una 87 in più. Quindi a un certo punto no. Ma non è fatto nulla. Ce l'ho anche io la 87, grazie a Dio, funziona bene. È uno dei migliori appalli che ci sono, Sì, ma questo è una 87 super pro. Questo è un 87 a vero, questo c'ha 50 watt, c'ha un dissipatore allucinante, e poi c'ha questo, vedi, c'è il tastino qua, dove c'è scritto ecco, fai così, e lui è diventato accorto, questo è costato 500 euro, poi abbassi, ecco qua, e togli tutto. Esce veramente molto bene. Quello sì, Io esce bene, non ti posso dire niente. Ma ho guardato la parecchio l'altro giorno e vado io, cazzo, canale la testa, te canale, sembra un trasmettitore FM, sembra la verità si ricarica. Questo è a posto, è tranquillo. Comunque c'è anche io, un altro trasetto. Ce l'ho buttato qua a casa e non lo stavo dando una volta 100 euro, guarda. Mi hanno detto dice non dallo dice, quando dice i soldi dice vengono, lui tiro e ci piazzo dice l'effetto dice quello quando vuoi, io come io ti devo tiro. Vabbè, questo sì è così, però è perfetto, sono nuovo, e ne ho 3-4, non è che ne ho, questi sono dei tanti, l'ho messo, l'ho pulito tutto, l'ho messo a girare, un altro l'ho conservato se c'è questo problema, peccato perché è nuovo, però già si può usare, si rompe le luci. C'ho il iPhone 2, c'ho un altro del 3009, lo stesso anche quello è modificato. No, questo va bene perché è originale, non c'è nessuna modifica di cambi, FM, M, è tutto regolare. Dove c'è il tastino che c'è scritto ecco, c'è il tastino proprio suo, c'è scritto ecco, a fianco al tastino beep, lì c'è, si inserisce la scheda corta. E gira, questo gira bene. Vabbè. Lo senti? Ulla. Gira veramente molto bene, però bisogna lo tolgo, lo tengo normale. Ho sentito che eravate sul 20, mi siamo arrivati lì a fare prove, e invece ogni volta me ne andate anch'io a fare questo. Ma ci vediamo. Siamo destra, sinistra, sinistra, destra, non è che siamo tutti nello stesso canale, naturalmente. C'è anche io lo spinottino, quello arancione, con capo rosso e nero, e la scheda colla, qua, l'87. Solo che non l'ho messo ecco, non me ne frega niente. Lo lascio così com'è. Esce bene così, esce forte di radio. Anzi, l'unica cosa che devo fare è togliere il timbro alle 11 in modo che proprio il doppio. Il discorso è quello. Come detto ve lo lascio. parecchio, è un fulmine, già l'hai visto quando, come c'è forte con la salerza, quindi tu figurati sei un metoletto, com'è. Però il limite è questo, per dire, questo di B1000 è meglio, un microfono di B1000, non è che sto usando effetto corso o cosa del genere, questo di B1000, quello che mi ha dato Antonio, quindi figurati tu. Quando ho comprato l'apparecchio suo, andava bene mela. Io vedo che funziona bene, però è stato colto un'altra cosa. È un altro tipo di modulazione, non c'entra niente. Va bene, va bene. Modulazione quindi a posto, segnale dovrebbe essere più che ottimo. Non funziona, funziona, alla grande. Facevo solo controllare, provare più che controllare l'altro, 3009, e basta, poi li ho, tutti sistemati, sono tutti dentro la scatola, bella giornata anche oggi, vabbè, piano piano ci arriva anche il caldo per andarci al mare. Anche tutto dentro la scatola ci stai mettendo qua. Io sono cercato di andarmi a Boriama a abitare, figurati tu. Adesso vediamo un po'. Ho visto una bella casa a Boriama. Vediamo un pochettino, ci mettiamo d'accordo. Me ne vado a abitare, se la piglia in culo. Io qua in condominio non ci sto. Me lo dice la casa al mare, mi faccio la cura per la psoriasi. Salgo ogni giorno col Puma, quello che è, vi faccio la spesa, se non vi piglio la macchinetta 50 va a fanculo a un certo punto. Adesso vedo come finiranno le cose dopo, come si chiama, la questione delle cittadinanza, vediamo un po' come stanno le cose. Secondo me vendo qua e me ne vado giù, me ne vado a Boriamare, piglio la macchinetta 50, va a fanculo, 3.000 euro la trovo, ogni giorno salgo, mi faccio la spesa, poi scendo giù e sono tranquillo, nessuno mi gira le balle, mi installo le antenne, mi installo, siccome non c'è nessuno in inverno, chi vuole che ti vanno per le balle, c'è il giardino, c'è il coso, una bella casa, visto che l'ho vista in fotografia, 140.000 euro, cosa vuole di più? Direi tu vedete cittadinanza, ma la casa che hai, la tua è quella lì via Vannabasso? E allora, dicevo che sia, è la mia signora. Ce l'hai in atto, tutto tua, è tua proprio, accatastata non è tua. Esatto, sì. Allora tu vedete cittadinanza non la prendi. Hai capito, ci hanno studiato bene. Non devi avere niente, nulla. Nessun mezzo di trasporto, nessuna casa intestata, non deve avere niente, deve essere nulla tenente. Quindi, hai perso. Qui c'era, proprio anche oggi ne stavamo parlando, cioè, ce ne sono poco furbetti, c'è gente che si sta separando per prendere il reddito di cittadinanza, si crede che la gente è matta, ma non te lo è. Tutto un gioco politico quello, la danno a chi veramente vive in condizioni indecenti, ma chi ha una casa non gli danno di cittadinanza. Stai tranquillo, ci già sono studiato bene. Io manco per le balle, ma io ho questa e anche l'altra, adesso maggio continuo ad andare con le cose, penso di farcela tra questo mese e i primi di aprile, dopodiché io me ne vado di tutta l'estate a rientrare qua, se ne parla a fine settembre, ottobre, ho già fermato, ho tutte le comunità lì, che c'è qualche cosettino da fare, poi il 3009, dopodiché sono tutti dentro le scatole, il microfono, lui, mentre i vatti, mentre i sciocchi, un po' di roba. Avevo messo anche tutto in un sito per vendere in blocco, però mi chiamano, mi dai questo, mi dai quello, non do niente a nessuno. Deve venire uno e portarsi via tutto per la cifra che io ho messo, e se no rimane tutto dentro le scatole e non me ne ha fotti nulla, non mi stanno chiedendo niente. Lampa di tutto. E prova a vedere che te lo a te lampa di lui. Buonasera. Questo lo sai cosa c'è di bello, Marco? Mi guarda, fai così, guarda. 1, 2, 3. Oppa. Hai visto cosa c'è di bello questo? Eh? È nuova potenza. Poi fai così e lo togli. Questo era l'87, Marco, questo non si tocca. Non è come quell'altro. Ehi, ehi, ehi. Buonasera a tutti, dai, sono... ho passato la notte in bianco, sono in condizioni disastrose. Ho aggiucchiato qualcosa un po' prima per non mangiare troppo tardi e adesso devo mangiare altro. Vabbè Antonè, avevi poi risolto quella cosa lì? Tutto risolto. L'audio ormai non si è comprato più un malattino come ha fatto l'altro giorno, si è comprato un trasferitore FM. Cosa fai? C'è il canale da una parte e c'è il canale dall'altra, in modo che metti musica e ce l'ascoltiamo. Voi già la cambiate idea, si è pigliato un'altra parete, come si vede. Quindi siamo a posto. Meglio così. No, io ti giuro, in vita mia, da quando sono CB, non ho mai visto un apparecchio in quelle condizioni. Armoniche sì, razze sì, però in tre canali, casa da avere, 3 dB di differenza, uno dall'altro, una parte dall'altra, non è mai capitato. Questa è una volta in vita mia. Ma non sei un'altra anni c'è quel baracchino, un Regger. Se tu lo vedi è impeccabile, nuovo, nuovo, nuovo. Mai stato toccato, mai stato riparato. Quindi non so che problema possa avere. Non lo so, Antonè. Sono baracchini che io ho da anni. Capito? Anni come questo che è nuovo, nuovo lo stesso. Il Typhoon 2, il 3009, il Comex 5024, il Eneo, l'Assa Verde, sono tutti dentro le scatole già, tutti, questo è l'unico che non avevo provato, lo sto provando, ma questo è un signor baracchino, una bellissima radio, bella compatta, bella robusta, forte, una bellissima ricezione, trasmissione, c'è un microfono normale, e il Mickey Gain è tarato a metà, Michigin a metà, perché poi quando si discolecco se no mi fischia, invece è tarato perfettamente. Marco, il segnale com'è lì da te? Ho superato il più o è sempre sopra il più il tuo smitter? Oltre il più, poco dopo oltre il più. Questo pompa, questo viaggia, va bene, riprendi Antonè. E capo, ti va bene per quello, ci mancherebbe. Ohia. Me va mai, siamo a posto. Ohia, me lo mi. 1, 2, 2. Sei 4. Un quello che mi ha dato Marco, le FM 506 ho modificato l'altro giorno. C'è il canale sotto, 34 sotto, 8, poi c'è tutti i canali normali, dal 35 al 40, e quindi c'è addirittura la modifica per il posto. Riuscire di portare a quelli 50, quindi ho fatto tutto, ho messo il microfono bloccato, ed è perfetto, nuovo fiammato, e poi c'ho l'endicon 40 che ho provato davanti a te, ho chiamato. mano dalla finestra. Mi sentivi tu, mi sentivo anche da giù, addirittura quello di nel centro storico, durante la telescopica, figurati, quello non ho modificato la vetta, quello non ho toccato. Se avessi saputo avrei modificando le batterie di Aosè, c'era scendo dal fumo, quindi a un certo punto l'ho lasciato girare così com'era, però già c'è ben ho visto. È perfetto. Ecco, registrato il brecco, Massimiliano. Io ne ho un altro dentro la scatola che praticamente è quanto un veicolare VHF, c'ha tutti i comandi al microfono. Come si chiama Massimiliano quella radio che c'è dentro la scatola? Venus. Ah, lo zio, sei io. No, impeccabile, dentro la scatola. Dentro la scatola, ricomandi tutto dal microfono, ricezione, trasmissione, cambio canale, tutto. C'è solo l'unità e basta. Anche quello lì lo stesso, in partenza, tutto. Soldi, portate soldi e vive baracchini. Ciao Massimiliano, buonasera, sono io, Antonello e Marco Condor, avanti. Ciao Claudio, Marco e Antonello. Ciao Massimiliano, saluto. Vai Marco, Nino Condor, vai. Beh, forse non mi sente. Antonio, abbassa appena l'ecco che non ti sento bene. Sto dando il DM1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, se parli così va bene. Ah, solo che sono parecchio che non uso questo microfono, la verità. Perché me l'ha dato Antonio, l'aveva dato con il baracchino suo, con l'87. Quindi, a un certo punto, non l'ho mai usato. Gappa gappa. Antonio, io ho un problema con una radio. Nel senso che fa tutto, ricezione, tutto quanto, e non fa importante. Da cosa può dipendere? Prima di tutto che radio è? È come un tornado, però al posto di avere un finale ne ha due. Capito? Allora, importante non va. Allora, cambia tutto il... Come si chiama? Aspetta. Il modulatore. Devi cambiare quello. Che i finali funzionano. Massimiliano, dille che è quello modificato, però che per a volte dovresti prendere a colpi. Inizialmente quando l'abbiamo provato Massimiliano dovresti prendere a colpi, adesso manco prendere a colpi ma è importante, però la ricezione c'è tutto, capito? Allora ci ho fatto contatto come ce l'ho io. Ascolta, fa una cosa, fagli le saldature dal motoratore ai finali, tutte quante, gli fai un saldatore, due secondi, gli fai un puntino di saldatura, perché i finali non possono essere bruciati, quindi c'è poco da sbagliare, il motoratore è altrettanto. Infatti secondo me qualche saldatura fredda. Come anche lui, no? Ce li ha tutti dentro le scatole, il baracchino, li usa, poi va a toglierli, cazzo no, e no, dai. Sicuramente qualche saldatura fredda, Massimiliano, come avevamo detto, però vai tu a pesca. Non ne so pure. Esatto, ci vuole, mica ci vuole questo baracchino, tenero, fatti dal modulatore e arrivi fino al finale, c'è quel rettangolino, dove c'è anche quella piastrina metallica che c'è all'interno dell'apparecchio, per dire, fagli tutte le solature una per una, gli aggiungi appena appena il stagno, lo fai scaldare, gli aggiungi appena il stagno e tu sei a posto. Così ho fatto io, con la 87. Tanto se non la trovarla così, non la trovi manco se ti ammazza. Il discorso è quello, è una soldatura fredda, sembra così ma è una soldatura fredda che non conduce. C'è lo stagno, ma lo stagno in pratica si ossida sopra dall'umidità, e cosa vuol dire, tu sei in campagna e quindi lo capisci più di me queste cose. A un certo punto si ossida, non ho capito, il discorso è quello, bisogna che le fai nuove. Li mette a palla nel stagno e tu sei a posto, e lui vedrà che si rimette a posto l'apparecchio, non c'è niente di particolare. Buono gioco, io no, ce l'ha lì Claudio, no, non ne so, non ci voglio buttare le mani, non faccio tempo e boh, non so. Fagli tu, 2 secondi non ti costa niente. Quindi quello stagno fine, quello che vende fusato, non fai altro che partire dalla, dove c'è il modulatore, quello largo, arrivare fino a dove ci sono i finali, c'è quella piastrina rettangolare, in pratica gli fate soltanto anche di quella, capito? E quindi sei tranquillo, io l'ho fatto e allora ho fatto 7, grazie a Dio sono riuscito. Perché così con la lenta non te la accorgi, ma se ti ammazza. Da vedere, da. Aspetta che vediamo se è rientrato Marco. Marco, ci sei? Forse stava mangiando. E va bene che va bene, dai. Secondino solo che mi sta squillando, un attimo Antonio. Mi fai con comodo, non c'è problema. Aspetta un attimo, invece faccio una cosa io, ma la falla fu e sta arrivando invece. Che ho pensato poco fa, ho bevuto un po' di acqua e di quella minerale, cazzo, cioè al mattino mi fa falla la pli. Scusa che stavo. Sicuramente quello lì, non ho dato, non ci vediamo, ce l'ho qua a casa, che ho provato a controllarlo, però io ti ripeto, non ho visto niente di anomalo, non me ne intendo, perciò vediamo, però potrebbe essere quello lì, perché la baracchina va perfettamente funzionante, anche quello è un Colt, funzionava bene, quando lo usavo non ci vediamo, poi non lo so, adesso lo facciamo controllare. Marco, rientrato? No, negativo, l'ho chiamato anche io e niente, no. Segnale mio buono, Massimiliano. La radio buona, sta andando bene, 87. Sì, perfetto. Ok, va bene. Va bene, Antonè. Sì, perché anche lui ne ha talmente tanti di baracchini e molti sono fermi, quindi può darsi pure che un po' di umidità, un po' di condensa, qualcosa del genere abbia un po'. Appunto come dici tu, si è dato qualche pista, qualcosa che però io non vedo, non ho visto, magari smontandolo, aprendolo del tutto, si vede, non so, vabbè, si vedrà, già ne hai altri di baracchini, Massimiliano, quello già si mette a posto. Certo che si mette a posto, perché quello è abbastanza nuovo, che quello è un arraio. Sì, alla fine sono 4 video a Bugatti e non è che ci voglia tanto. No, cosa ci vuole? 4 viti li ho tolti anch'io, però per sganciare il circuito stampato, girarlo e vedere tutte le saldature non sono 4 viti. Bisogna che lo faccia qualcuno che è capace di farlo, che ci abbia un buon saldatore da pulire tutto, poi vorrà pulito con la trinina, vorrà insomma sistemato bene per far sì che funzioni bene. Vabbè, ma già si mette a posto, non è un problema quello, va bene. Riprendi Antonè. Stava facendo cosa forse anche lui. Là, io stamattina la Bicone ho preso quello spray, quello grande per contatti, capito? E devo aprirlo, buttarglielo bene tutto dentro per vedere un po'. Ma Bricone, io una volta l'avevo preso a Bricone, ti dico che mi avevo fatto più danno che altro, capito? Io quello che ho preso della RC l'ho preso da Fusaro, 7 euro, ed è piccolo e non è bottiglietta grande, come si dice, capito? Però l'ho preso lì perché sono degli spray che comprano i tecnici, ma l'ho detto proprio Gavino di prenderlo lì. Quindi ce l'ho dato sui contatti, sulle cose essenziali, però ti ripeto, se è come dice Antonello, è un problema di circuito stampato, quindi di saldatura fredda, con lo spray non ne fa niente, assolutamente, perché con lo spray è proprio per contatti elettrici, quindi per spinette, per potenziometri, per commutatori, eccetera. Ma quando tu glielo butti così sopra il circuito stampato e la saldatura è fredda, non pensare che non ne fa niente. Pure ripristinata la saldatura e allora il circuito praticamente il passaggio passaggio di quello che ci deve essere, c'è tutto lì, Massimiliano. E cosa vuoi ti dica? Io vabbè, l'ho pagato 12,90, non l'ho pagato 3-4 euro. 12,90 l'ho pagato questo spray. Sì, vabbè, là, vediamo. Là. Vediamo com'è la situation, capito? Se cade già va bene, ma se sto dicendo io piccolino che anche una bottiglietta di gas per accendini, mi così piccolo ho pagato 7,50 euro a fusare. Una volta che avvino RC, adesso non mi ricordo, e spray quello non olioso, quello a secco, che asciuga subito, e ti dico che anche del 140, quelle degli slider, quelle cose lì, le facevo tutte con quello, ma li sistemava subito, scorrevano perfettamente, è molto buono. Quello di Città Mercato io l'avevo preso di bricco una volta, adesso non so se è uguale a quello che hai preso tu, non lo so, però non agiva, non faceva niente, non faceva nulla, capito? L'avevo usato anche per pulire i potenziometri del 780, che erano tutti sporchi, gracchiavano. Vabbè, comunque, e quello era controllare e basta, il resto già si fa. Vediamo un po', Marco, è tutto in ucciso, vediamo qua. Passaggio ancora fino alle 6, altri 10 minuti, poi se è meglio vado a accompagnare a Gaia Danfera. Quindi ne abbiamo ancora fino a lunedì e poi da martedì dovrei tornare come prima qua. Ah, rientri al lavoro? Spero martedì, dai, però ancora lunedì sono libero. C'è il tempo per poter finire quella cameretta volendo. Non penso, la cameretta è finita, voi imbianchinate il buo, era il muro di cartongesso, ci vuole fatta. Però non lo imbianco perché lo imbianco direttamente quando metto il cartongesso, capito? Così faccio tutto uno. La cameretta è finita. Beh, quello sì, perché magari tassellando e facendo sporchi. Lasciala stare così, e almeno asciuga di più. Adesso è un lavoro regolare. Ancora oggi la lascio asciugare, però domani almeno nella parte che ho fatto nuova una passata ve la do là, capito? Così tira, poi con la seconda passata esce una scamata, va bene, non c'è problema. Ah, devi andare a prendere la Gaia a Danza, quante volte va a Danza? Due volte alla settimana? No, va lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Questo è solo il mercoledì. Allora praticamente tutta la chiesa. Beh, fa il martedì e il giovedì fa il collettivo, là. Va là dalle 5:30 alle 8. Il lunedì fa lezione privata, il venerdì lezione privata, capito? Fa un'ora. Ah, ecco, ho capito anch'io. Va bene. Dovremmo andare per noi a Danza. A Danza del Ventre volevamo andare noi. Sì, o deluvemmo. Chi ci vuole più sicuro? Grazie di essere. Ah, sono un balloncino, volevamo andare noi. Io, non è che ne ha voglia. Mi sono andato in campagna, ho detto, no. Andiamo a mangiare i cani. Certo apposta, poi ci siamo rientrati. Vabbè. Ti dico, al sole ci stava bene, all'ombra aveva buon freddo. Io diciamo che stamattina mi ho fatto tutta la mattina in giro, alla fine, guardare due cosettine di applico e tutte queste cose qua. E niente, sono andato a casa, mi ha acceso un po' la stufa a pellete perché prendo un gas e avrò un po' di umidità. Ma questo dice, a Montiolo, ed era dopo pranzo, c'era fresco. Capito, siamo tutti giunti sotto la veranda, faccio la sigaretta, però ve la vedo. Ho detto io, se andremo, perché sono mezzo pizzicato, l'aria, stamattina alla farmacia, quando mi ha chiamato, stavo prendendo delle medicina perché l'aria è tutta la notte, ho mal di gola. Purtroppo il tempo è così. Sto facendo la mattina molto caldo, la sera fa freddo, umidità e come ti esci dice bideccia. Sì, vabbè, che ci puoi fare, purtroppo. Se buzzo io è ancora là, capito? Va bene, va bene. Quella grigio sta sempre andando bene, vero quello grigio, sì? Ho capito. Quell'affarino grigio sta sempre funzionando alla grande, vero? Alla grande. Alla grande. È sempre, sempre attivo. Sempre attivo, sì. Tutto, tutto sistemato, pulito. Tutto. Sto decidendo se dare una passata di nero. O cosa fare. Adesso me lo tengo ancora sotto controllo e poi decido cosa fare. Perché ce l'ho un nero opaco, capito? Che bellino. Boh, è da vedere, se esce bellino, però ci vuole quello che non si stacca la vernice, quello è ad alta temperatura, sennò se con la bomboletta così fate viago bussinosi e buh. E io c'ho anche il colore suo, originale, originale, proprio quello dorato mi. C'ho il colore suo originale dorato, ad alta temperatura, adesso mi ricordo perché ne avevo già fatto uno, che avevo venduto. Grazie, sembrava uscendo dalla fabbrica. Adesso lo tengo così e poi lo faccio uguale come deve essere. No, vabbè, uguale come deve essere, così cromato, argentato, come ti vuoi dire. Perché quelli dorati sono tutti ZG, quello non è ZG. È vero, infatti, allora non è così. Però un'altra passata di... un'altra bella passata di coso, di spray sgrassante per farlo ancora più lucido e pulito, capito? E di culo una passata dell'acciaio, cioè leggero, leggero, vedi che torna come ti detto. Ma è nel cavo che io a fare il fusibile lì, mi ha messo a Dio. Il fusibile c'è dentro. Lo so che c'è dentro, ma bisogna farlo anche nel cavo. Il cavo c'è nel coso dell'alimentatore, ti preoccupa. Quell'altro cavo che c'era nel giù tagliato era troppo fine. Ho usato le sue polarità dirette con l'alimentatore da 60 ampere. E nei cavi che arrivano dall'alimentatore c'è il fusibile. Allora tutto a posto, va. Gappa, gappa. C'è Antonello, ripreso. No, non credo che si riprenda. Ciao Massimiliano. Scusate se mi sono assentato, ma è entrato il gatto di fuori e c'è stato voluto qua. E io ciao Marco, ti ho salutato anche poc'anzi, ma magari ti eri appena sganciato. Va. E ho sentito saluti, sì, però le gatte, come vedono il loro, no, nonostante siano femmine, come vedono il territorio minacciato, trovatele a me. Ah, vero, tu c'hai le gatte. Io l'ho tolta la... Adesso sto andando potenza minima, Massimiliano. Sono sempre la grande, la radio è bella, bella presente, bella forte. Dei picchi di modulazione, va bene, va bene. Ehi, maracchino, funziona, Ehi, 10 watt, già va bene. Siamo la potenza alta, va riscaldata. Andiamo. No, sto riscaldando neanche. E allora, Marco, cosa ci racconti? Cosa vuoi che vi racconti? Sono uscito stamattina appunto in condizioni pietose per aver fatto la notte bianca. L'unica cosa buona che ho fatto è ritirare la pensione a mamma, pagare la luce, 235 euro di luce. Io non riesco a capacitarmene, di solito veniva a 130, 140, cioè massimo 150, l'altro giorno 2,31 esattamente, più le spese. Eppure, caspita, oh, vabbè. Ma c'è stato un momento dell'Enel. Io ho tolto le 20 euro della TV, ne ho pagato 170, quindi se non ho pagato 190 è qualcosa in più rispetto al bimestre precedente. Tutto caro, caro Marco, tutto caro, oramai siamo così e bisogna soffrire. Avanti Massimiliano. Sì, non ci ho pagato 300 io. Sì, no, non pensa che io mi piacere anch'io mio. Per come siamo noi, a me siamo sempre 190 e vabbè, il trimestre scorso ho pagato un po' di meno, il trimestre ancora 220. Ma io sono sempre nella cifra di 270, 280, 300, 280, 300, capito? La cifra è sempre quella. E vabbè, tu mi dai, cazzo, da grande, cioè da piccolino non mi piaceva il buio, da grande mi piaceva con la luce però. Ma è un casino, cioè troppo. Cioè, ho fatto anche la richiesta del controllo del contattore, infatti era venuto, sono venuti con le lane, l'hanno misurato e tutto a posto. E così, ti dico che io non ho condizionatore, non ho niente, perché non ho niente, però la luce è così. Infatti Banfottimi adesso si organizza questa estate, la lasciamo andare così, prima del prossimo inverno, tutto impianto a gas. Abbiamo visto tutto in pianta gas, così la Ruzzi rimane indietro. Ma io la verità adesso, vabbè, quei mesi scorsi c'erano sempre mori andando, Trapani, Bettumiera, già lo sai, no? Adesso da questa bolletta qua che dovrebbe arrivare adesso dovrò vedere la differenza, perché adesso io ho eliminato scaldabagno tutto quanto, ho messo la caldaia, capito? Adesso vediamo un po'. Internalotto Massimiliano, io faccio la stessa cosa, adesso non ce la faccio perché oramai non si può fare più. Passata quest'estate qua a Carbonazzi faccio così, caldaia nel poggiolo, tutto l'impianto e via, nemmeno anch'io scaldabagno, queste stronzate, perché sono quelle che consumano, purtroppo sono quelle che consumano. Vabbè, avanti Marco. Stavo ascoltando poc'anzi questa storia del reddito di cittadinanza e Antonello gli ho detto che non è così facile, almeno pur per quanto mi riguarda non so come funzioni, perché sì, io non ho niente intestato, no, non ho reddito, però sono a carico di mamma, diciamo, cioè abbiamo la casa e non solo quella, e quindi non so come va a finire. Però dimmi, io non c'ho intestato quello scooter che vale 500 euro, sì e no, lo scooter quello fermo in garage, ma non ho proprietà e ti dico che preferisco non averne intestate di cose. Posso provare, però non voglio fare di quelli che ne approfittano, perché qualcuno suggerisce, fai figurare che vivi nel monolocale, ci abbiamo anche un monolocale, no? Ma poi gli intrallazzi, le truffe si scoprono, non sono di quelli. C'è già un'indagine in corso prima di partire Rete Cittadinanza, che hanno detto oggi a TV7, praticamente c'è gente che si sta separando, capito? Che si sta separando per avere Rete Cittadinanza. Non ne prendi neanche tu, non ne prendi neanche tu, tu ti devi togliere dal nucleo familiare di tua madre perché tua madre ha reddito. Vivere in un monolocale, in una cosa da solo che non sia tua, in affitto, e Rete Cittadinanza serve per vivere e pagarti l'affitto, punto e basta. Ecco, mica che l'hanno studiata bene, non sono scimmi. Un attimo che io devo lasciare, così vi saluto prima che ci sentiamo, dai, ciao Marco, ciao Claudio e Antonello, chi fosse in ascolto. Mi sgancio e ci sentiamo più tardi se coincide, ciao. Ciao Massimiliano, dai, ci aggiorniamo al telefono, ciao, buona serata, avanti Marco. Ciao Massimiliano, dai, alle prossime, io quando posso entrare entro, vediamo, dai. Claudio, è quello che ho detto più volte a Antonello, mica non sono scemi, cioè quel monolocale è sempre di proprietà, è condivisa con i fratelli, ma è di proprietà, certo non mia, non è mio, ma non è che puoi barare su queste cose, ma poi quando ti beccano ti fanno pagare, c'è il penale, tu fai danni allo Stato, no, non funziona così, no, ui. C'è gente che preferisce avere 1000 euro al mese o quanto ti danno che avere la moglie, poi dipende dalla moglie, non lo so. No, non funziona così a fottidini, non è come dice lui, non devi a tutto ciò che ti è intestato fa praticamente reddito, capito? di avere niente, nulla, tenente, nulla, un paio di botti, un paio di pantaloni, e non devi appartenere al nucleo familiare che ci sia reddito, va bene? Se tu eri con tua madre, nel nucleo familiare di tua madre non percepiva il reddito, forse la cosa poteva essere fatta. Ma siccome tu sei nel nucleo familiare di tua madre ha un reddito, tra l'altro avete anche la casa, non Emili, ma neanche Antonello ne prende, nonostante il suo ISE sia al 50% a zero, perché lui percepisce il reddito. Quello che le danno è un reddito, anche se minimo, è un reddito, quindi non funziona così. Guardatevele bene le cose, c'è anche nel decreto ufficiale, capito? C'è anche nel decreto ufficiale lì dell'INPS, tutto spiegato, tutto fatto. Non funziona così, non sono scemi a dare soldi così a chiunque. Ci devono essere dei requisiti, e i requisiti richiedono tantissime cose che sono molto importanti e molto serie. Tutto qua. Ecco. Ciao Franco, buona serata, vieni avanti. Ehi K, ciao Claudio, ciao Marco, ben ascoltati. Ma dimmi una cosa Marco, ma tu per prendere quel reddito di cittadinanza, tu puoi lavorare? Guarda, io per le condizioni della schiena, per le condizioni fisiche e se vogliamo dirla tutte anche psichiche, con questa depressione che mi canta, non... pensa che io non posso stare in piedi più di un'ora per la schiena, per... no, io praticamente non posso lavorare, perché se non l'avrei fatto. Nonostante dicano che mandronia, che così, no, non posso più fare niente, sono sempre o seduto o sdraiato. Purtroppo il mio fisico, poi non si sa se ci sia questa forma lieve, latente di malattia neuromuscolare, no, perché io dallo sviluppo ho sempre questo senso di stanchezza, di spossatezza, non c'ho forza nei muscoli, no. Certo, la spesa la posso fare, guidare, posso guidare, non è che sia, però non, per esempio la bombola in spalla piena io non la posso mettere, io la posso sollevare con la mano da terra, ma a metterla in spalla non esiste, proprio non riesco. E c'è un amico di mamma che ha 85 anni, si mette la bombola piena in spalla, beato lui, anzi tocchiamo ferro, non gli voglio mettere occhio. E quindi comporta anche quello, questo dei soldi, no? Cioè, ti danno i soldi però poi devi accettarli i posti di lavoro, non è che ti pigli i soldi e poi non fai nulla, perché te lo tolgono, magari non ti levano quello che hai, però te lo tolgono nel frattempo. Cioè, non te lo danno più, te lo danno fino a un certo periodo, poi dicono, beh, questo ho una gana o non ce la fa più, e glielo togliamo. Mi ripeti dove ti volevo arrivare io e dove volevo arrivare io, perché uno che non si sente, che non può lavorare, non è che non se la sente, che non può lavorare, deve andare a cercare in altri posti, tra medici, queste cose qua, per avere un qualcosa. Non c'è più un reddito di cittadinanza, capito? Perché sappi che se ti danno quello ti cercano, ti cerca il comune, ti cerca chi di dovere ti cerca per andare a lavorare, anche per poco, ma ti cercano. Avanti Claudio, buonasera. Ma non hai detto l'essenziale però, capito? Ti possono mandare oltre 50 km di distanza con la tua macchina, a tue spese, capito? Quindi ti ho detto che hai studiato bene, non so macchi, hai studiato benissimo, capito? Ascolta Fra, visto che sei entrato, giusto così per capire se tutto procede bene, allora io sono con l'anno 87, questo è l'altra che ho sempre colte, perché così è normale e così è colte. Vediamo com'era, ok, guarda il segnale, quindi questa è la potenza bassa della radio, guarda il segnale che poi tiro sulla potenza, riesce a due potenze. Questo è 7. Perfetto, quello è 7, mentre così invece quanto è salito? 9, spaccato. Allora già viaggio, dai. Mettiamo la potenza. è svariato, intanto aumenta tutto dalla radio. Va bene, capito Efra? Hai studiato lei, non so macchi, ma se stavano facendo vedere a TV7 oggi una vergogna, ci sono già degli indizi, cioè delle cose che stanno già seguendo, soprattutto in Campania, no? Tanto per cambiare, Campania, Puglia, eccetera, eccetera, e soprattutto anche la Sicilia. Dove c'è gente che per percepire o lui o lei il reddito di cittadinanza si stanno addirittura separando, ma mica la gente non è marca, mica. Boh, io gabbare che siamo tutti scesi o siamo tutti nati dal culo del gabbiano, non funziona così. Così è, non è vero già questo. Cioè, lo Stato è desiderio più intelligente di l'altro, però la popolazione è più intelligente di loro, perché in effetti con la separazione li prendono tutti e due. Ma prendono colpi forti, ma stai scherzando, è evidente, che a un mese dall'innesco di questo procedimento dello Stato ci sia il 50% un cazzo di gente che si sta separando legalmente. Cosa vuol dire? Si separano legalmente, consensualmente, ok, uno va a abitare una parte, uno va a abitare all'altra e percepiscono uno o l'altro il reddito di cittadinanza. Ma non funziona così, perché ci sono dei navigator così chiamati che stanno controllando i piedi del culo a tutti, e ci saranno delle cose belle da vedere, ma veramente delle cose belle, perché loro pensano di fottere lo Stato, ma lo Stato ha già fatto questo decreto legge che è già una grandissima cagata, come ha aggiunto quota 100 che è un'altra cagata doppia, capito? E alla fine tutti pensano di arrivare, di fare chissà che cosa, ma buffonendosi. Altro anche mio fratello, l'altro giorno, ci ho mai attacchiamo. No, vuoi fare? E cazzo tu, sì, io ho 42 anni di contributi, ma sono andato con la mia contributiva, col mio lavoro. Io non volevo un cazzo allo Stato, capito? Mentre tu, che stai andando con quota 100, perché mio fratello è più grande di me, stai andando con 38 anni e 62, da 38 a 42 tu le paghi quegli anni che non hai lavorato. Lo Stato te ne li toglie, ma non c'è cazzo ci riservi. Sì, chiaro un grido che li paga, è mania, non è come siamo andati noi, lascia perdere, che la quota 100 loro dicono che non è tassata, non è, però è penalizzata. Ma è penalizzata del 25%, fra, ma ora si riservi, ne stanno facendo poco di cagate, ma lasciano le cose come stanno. La cosa bella che lo Stato deve fare, non fare questo decreto di quota 100, ma bensì fare quota 41, ok, quota 41 è buono, senza nessuna penalizzazione per chi va in pensione, quota 41, tutti quelli che hanno 41 anni di contributi potevano andare in pensione, o meglio dire, un'altra stronzata, quota 40, perché uno che ha lavorato 40 anni ha già dato, è già arrivato, boh, finito. Invece, siccome con quota 40 o quota 41 ci vogliono un sacco di miliardi per poter mandare la gente in pensione, allora loro cosa hanno fatto? Facciamo 38-62, da arrivare a 42 tassiamo i pensionati che vanno in pensione e così recuperiamo i soldi che stiamo anticipando per fare che cosa? Per metterli sul reddito di cittadinanza. Ma andate a cagare! L'altra gente la devo pagare io, la devo pagare, che ho fatto i contributi, me la lascia perdere. Guarda, il mio collega ha fatto quella del 41 e gli hanno bocciato, già due volte gli hanno bocciato. Sì, perché ancora non è legge, ancora non è passata al Parlamento, capito? Ma penso che qualcosa fanno perché la cosa, il quota 100, 38-62 sarà veramente un fallimento per lo Stato, quindi faranno l'opzione quota 41, perché se ne sta già parlando, che è un'opzione. pensione senza nessuna penalizzazione. Tu hai 40 anni di contributi, hai 60 anni di età, hai 59 anni di età, però c'hai 40 anni di contributi, fuori dalle balle, senza nessuna penalizzazione, quindi vai con la contributiva tua versata, punto e basta. Ma il resto è tutto noia. E come la canzone di Califano, sono tutti convinti che siamo nati da Rugulo di Rugabbiano. Vai Marco. Mi hai fatto ridere quando hai parlato della Campania. E dove voi? In Campania, secondo me ce l'ha, è patologica, ce l'hanno nel DNA la truffa, ce l'hanno scritta nel DNA, è una cosa, è più forte di loro. Me. E così in molti paesi al sud, più al sud di noi, detto tra noi. Me. Quello è parassitismo proprio, io possibilmente da questo stato di merda non voglio niente, se proprio non è obbligatorio, tipo pensione invalidità, quelle cose lì. E vabbè, e così è comunque, cioè danno qualcuno da una parte ma ne tolgono ad altri, a voi che i contribuenti li tolgono da voi, capito? Lo Stato è... Una volta un insegnante mi ha detto che praticamente la mafia era quasi un'organizzazione simile allo Stato, no? Un po' sai, invece ti dico che è lo Stato che ha un'organizzazione uguale a quella della mafia. Tutte e due ti seguono le gambe e se sgarri con altri metodi, la mafia ti gambizza, lo Stato ti toglie i beni, ti toglie la libertà, però è mafia lo stesso, è tutto mafia. Poi l'Italia è proprio il bel paese, in senso negativo però. E posso dirlo, il buco del culo dell'Europa. Non ci fa niente l'Italia in Europa, così come non ce la faceva la Grecia e forse anche la Spagna. E su quello non ci piove, ha detto una cosa saggia. Ma la cosa più grave che ti ho detto prima è che ne hanno intervistato uno della provincia di Napoli, di un quartiere abbastanza conosciuto, e non è stato lì a nascondere niente. Dice sì, io al 99,9% ho preso la cittadinanza perché non ho niente, sono nulla tenente, non ho nulla, non ho lavoro, non ho casa, non ho niente. E l'ha detto, ma è quel diritto di cittadinanza, tu lavori? E certo, è come già campano, continuo a vendere sigarette, continuo a fare quello, continuo a fare il parcheggiatore abusivo. Ah, ma stiamo arrivando, vai fra. Certo, in effetti è così, in effetti è proprio così, la gente quello che ha fatto sempre lo farà sempre, anche con il segnale di cittadinanza, perché quelli sono abituati, chi è abituato così a fare tipo contrabbando, tipo a vendere sigarette, a fare parcheggiatore abusivo, perché qua noi non ce l'abbiamo qui, ma però ci sono il continente, i multipulti ci sono, e la gente così. È tutto pieno, fra, è tutto pieno, capito? Perché io quando sono stato fuori continente, sono stato a Milano, sono stato a Bologna, sono stato a Roma, sono stato a Genova, da tutte le parti ci sono i parcheggiatori abusivi, soprattutto a Milano, e se non a Roma, fammi demolire Roma, che ogni angolo che ti giri ci sono questi cazzo di parcheggiatori abusivi, che non pagano le tasse, non pagano niente. Ma lasciamo perdere, Roma capitale. Città così brutta, pinghinosa, gatto, non ho, ma manco il peggior quartiere di Sassari così, lasciamo perdere. E loro stanno pensando a reddito di cittadinanza, ma dallo a ma te ne dico reddito di cittadinanza, lasciamo perdere. Avanti Marco. Ma Antonello non è rientrato, Antonello ci sei. È andato a ritirare il reddito di cittadinanza. Due gliene danno, una a lui e una azione. Vabbè, comunque sì, poi non so come funzioni. Nel senso, a me non piace mangiare. Io sono di quelli che, per esempio, in moto mi hanno fatto cadere tre volte, no? In macchina non ho mai né fatto né subito incidente in macchina. In moto una volta un vecchio esce dallo stop e mi fa cadere a terra. Una volta uno mi tampona da dietro in velocità, cioè non in velocità, era distratto proprio. Ma non sono di quelli che va subito, che non c'ha nulla e si mette il collare subito, dicendo mi fa male il collo, tutte quelle cose, quella è truffa ai danni delle assicurazioni. A me queste schifezze per questi mezzucci, per tirare su qualche soldo, non mi piacciono. Cioè, finché ti fai male veramente al collo, che ti fa male, che c'è qualche vertebra, qualche nervo schiacciato, eh? Io, a parte i danni ai graffi alla moto, non ho mai chiesto niente. Poi c'è gente che ti mangia, proprio lì dai un tocchettino col paraurti, ti appoggi subito a collare, oh, mi fa male il collo. Poi stranamente non capisco se non risulta dalle lastre nulla, come riescono a ottenere queste cose qua, o hanno medici compiacenti, soprattutto medici di famiglia, no? Sì, lascia perdere. Chiudiamola qua, da, non posso dire altro. C'è gente che ci marcia anche su questo. Anzi, grazie a Dio non mi sono fatto manco un graffio quando mi hanno fatto cadere in moto, ma erano cadute sceme, niente di grave. Non come quel poveraccio del giornale di oggi, che un Mercedes gli ha bruciato lo stop e mi pare o ieri o oggi è successo. Va bene. Vai, bravo, vai. Lasciamo perdere. Mai, mi sa che adesso il collare non te lo pagano più, perché se ne sono accorti che era una cosa per il culo. Mi sembra che non te lo pagano più il collare, anche se te lo metti il collare, non ci sono soldi, vai tranquillo. Perché uno, anche se sta male, si lo mette, però non te lo pagano, ti danno una miseria. Non lo so, dipende. Casi vengono valutati volta per volta. Qualcuno che si sbatte la faccia al vetro, no? E si fa pagare. Ho sentito di cose assurde, gente che vive di mezzucci. Certi, ma poi in Russia, se voi avete visto, sapete cosa sono le dash cam? Sono quelle telecamere d'auto che servono a avere una prova in caso di incidenti, no? Sai, in Russia quanti hanno visto, no? Che attraversando la strada, no, come sopraggiungevi tu anche a Passodomo, si buttavano sul cofano e si buttavano a terra accusando dolori. E naturalmente sono rimasti fregati perché c'era la videocamera montata nella macchina. Ma un bene ho visto, ma poi anche simulazioni stupide che non ci crede nessuno, capito? Anche chi è intorno che vede fare certe cose non è credibile portare avanti una cosa, eppure lo fanno. Però non ci fanno male, certi rischiano, magari ci rimettono, cioè si fanno male alla gamba, si fanno pagare. Qui c'è certi proprio si buttano sul cofano e fanno finta di ruzzolare a terra, capito? In Russia, era meglio quando c'era il socialismo in Russia, si facevano rigare dritte, adesso è diventato tutto un paese in mano alle mafie, poi c'hanno un KGB, un ex KGB come presidente, quel fatentone di Putin, perché sì, magari lui non si vuole mettere in mezzo, c'è ragione, però c'è un fatentone, è un ex KGB, figurati quanta gente ha ammazzato. Poi ogni tanto qualche giornalista, se l'avete letto, qualche giornalista contrario a Putin, caso strano muore avvelenato col polonio radioattivo, caso strano, non si sa come mai. È tutto un sistema di, come si può dire, organizzativo, chiamiamolo così, lascia perdere. Ma guarda che questo lavoro fanno sempre in campagna, perché il socio di mio fratello è di quella zona ed è anche abbastanza conosciuto perché c'è un'attività di condizionatori eccetera eccetera, Fototox. E ogni volta che ci vediamo così nelle feste, nelle cose, ci mette a raccontare. È capitato davanti a lui, uno che stava camminando, è caduto la giura, è arrivata subito la macchina, no? Quindi tutto il complotto, già tutto organizzato, è caduto da solo. È arrivata la macchina proprio e quello ha dichiarato che l'ha vestito che non se ne è accorto, capito? Quindi con tutti i testimoni, cioè, ma tutta un'organizzazione da paura, ha detto, da paura. Cioè, mi sono anche spaventato, in 5 minuti, ha calpestato, farabutto, disgraziato, calpestato, cazzo, chi dove è caduto era giura perché era davanti a lui. Quindi tu immaginati cosa riescono a fare. Guarda, tolte magari persone che i soldi ce li hanno, che non hanno bisogno di queste cose, il resto è tutto, la Campania è tutto un quartiere popolare di quel tipo, scambiami, sono tutti, sì, io non voglio dire che siano tutti delinquenti, ma ho detto, c'è la truffa, ce l'hanno nel sangue, è una cosa genetica secondo me, proprio della Campania e dintorni. È più forte di loro, è più forte di loro, non ne possono fare a meno. Truffe di ogni tipo, ma ci vuole anche fantasia mia a inventare certe cose, certi tipi di truffa. Sono, in un certo senso sono dei geni, a modo loro. E vabbè, così va il mondo. Comunque il mondo davvero è di furbi, a chi fotte più l'altro. E così è, in tutti i campi, lavoro... Tutto così è. Vai Franco, riprendi Franco. Oh, riprendi tu, mi devo allontanare un attimino, sto facendo cosa? Che senza mia moglie sto facendo cosa? Ehi, va bene. Modulazione buona, Marco, di questo microfono da palmo, sì. Eia. Questo però non è quello dell'altro giorno che andava in broadcast 6 canali per lato, no? No, 5 canali era, cioè 2 sopra, 2 sotto e un po' scantonava anche... Questo no, questo sento lo splatterino appena, no? Al fianco al canale però... Va bene. No, questo era 87, quello là era il Ranger. Io non capisco perché il nuovo sotto dentro la scatola, evidentemente qualcosa è successo, è rimasto fermo. Questo è l'AVA 87, sempre il microfono normale. Non stiamo usando anche il 3009, il Superstar, che ce l'ho. Poi c'ho il, vabbè, tutti gli altri, il Typhoon 2. No, già ne ho di baracchini, li ho tutti però già provati. Questo non l'avevo provato ancora perché c'era il connettore del microfono e qua sta accatto, quindi l'ho messo a posto e adesso lo sto usando, così poi lo metto dentro la scatola assieme agli altri che sono già in campagna. Quindi Antonello è sparito, come ha sentito il reddito di cittadinanza, è già andato a fare la fila all'Inps per domani mattina. Io non ho fatto manco il foglio ISE, quello mi ha detto di farlo comunque, non so se mi ci pulirò il sedere, però ha detto comunque di farlo perché va fatto. Certo, io finché potevo negli anni 90, ti ricordi, discoteche, riuscivo anche a farlo, ero molto più magro, riuscivo a fare cose, ma per me impegnative, adesso non, se dovessi rifare le stesse cose non potrei farle, non... vabbè, cosa vuoi che ti dica? Già, ho vissuto anche nella bambagia, Claudio, poi già c'è mandrovenia galoppante, però non è solo quella, me ne accorgo. Perché quando potevo le cose le facevo, poi vedo che man mano che si va con gli anni, con i decenni, il fisico peggiora, non c'ho massa muscolare, non c'ho nulla. Proprio perché non mi impegno anche a andare a Piazza Leseni a correre piano piano, a fare jogging, che mi farebbe molto bene la circolazione, la respirazione, la muscolatura, un sacco di... non lo faccio, così come non ho mai voluto fare sport da giovane, e mamma diceva vuoi andare a nuoto? Io no, vuoi andare lì, no, però lo pagherò adesso, lo sto già pagando, quello di non aver fatto mai attività fisica, capito? E vabbè, comunque sono uguale a quello scioperato di mio padre, sono gli stessi geni, capito? Un po' da parte di mamma anche, diciamolo. E quindi se vuoi assomare l'uno e l'altro, cosa ne può uscire fuori? Un calciofo. Antonello, aspetta che provo l'MB più 5 sull'87 adesso, funziona bene Marco, che mi dà un fastidio sto microfono normale, non sono abituato io. Riprendi Antonello che prendo l'MB più 5 adesso, funziona bene. Sì, ok, io ho saldato, ho trovato la saldatura falsa dell'87 mio e quindi l'ho saldata adesso, quindi sto provando come esce. Come sta uscendo Marco? Bene, bene. Bene, fai un altro passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sto usando il microfono amplificato con lo palmare. Buono, non fortissima, però è abbastanza buona, non è satura, non è metallica, non è gracchiante. Che microfono è, Anthony? Il Del 6 questo è. Aspetta che voglio provare il coso invece. Aspetta che lo prendo dal 2009. Il DM1000, aspetta, voglio provare quello. Ah, il Del 6 da palmo, ne ho avuto uno 30 anni fa, 40, 25 anni fa, funzionava bene. Ma un colore vivace, tipo rosso, arancione. No, è nero, c'ha i cinguetti come senti. A quanto li hai? Aspetta che alzo il volume un po', Ce li ho a 2,5 quasi 3, dai. Se lo cambio diventa troppo metallica. Sì, per quello te l'ho chiesto, perché... Caspita, diciamo che per essere a 2 o 2,5 quanto è... I toni, insomma, vabbè, il baracchino riceve anche con toni un po' alti, però, Questo c'è una timbrica di ricezione un po' alta. Però la radio è chiara, l'amplificazione è con te. A 2 lo stesso, il mic gain a metà. Perché si può, vabbè, il mic gain l'avrei tenuto sempre a manetta e avrei fatto lavorare il mic, solo l'amplificazione. Perché se sa quanto spinge se alzi. A manetta, ma ha fatto sì. Se ce l'ho a 2, se te lo metto già così, guarda, già così a 3, guarda a 3. Bello, bello. No, ma tu dicevi cos'è che è a metà, mi che viene dalla radio? No, della radio. Cioè il mi che viene dalla radio al massimo o è fisso lì, in quella là 87? No, è a metà, è regolato per quando metto l'eco, capito? Per quando l'uso corto. E quindi l'ho lasciato così. Però così è troppo alto, va bene anche così. Bene a 2, potenziometro dell'MB+5 ce l'ho a 2. Ai minimi termini, io. Però anche alzando non distorce, l'importante è che non ti autoascolti, perché sennò c'è il rientro, no? Se tu preferisci quello da tavolo, infatti mi ricordo che l'hai detto l'altro giorno, non ti piace quello da palmo da tenere in mano. No, a me piace tenerlo in mano. Potremmo quasi dire che io ce l'ho sempre in mano. No, io non riesco manco più a tenerlo in mano perché ho la triteromatoide, quindi ho l'automatico, soprattutto quando vado a fare la pipì. Oh, ma tu davvero hai la triteromatoide? Ma è una cosa ereditaria, no? Per Ilaria. C'è la stessa cosa di Simona lei, no? E no, come Simona, è diversa, molto più leggera, però ce l'ha. Ho capito. No, comunque va bene, l'MB+5 va bene. Quello cos'è? Modificato Nature? No, questo è modificato, l'avevo preso da Gigi Vulcano, ma la mia domanda è questa, va meglio del microfono normale, simile al microfono normale, accettabile, va bene, è giusto per comodità, Beh, diciamo che la sento più acuta, dipende dai gusti, a me piaceva anche quello da palmo, guarda, è un po' il discorso che ti avevo fatto anche Secchi, con l'altro apparecchio. Uffa. Il profeta Gianni, avevi provato con l'altro apparato, il microfono da palmo e il microfono da tavolo, lui preferiva quello da palmo perché così è leggermente più metallica, più acuta, come dire, cioè finché il K posso capire, il K, a meno che tu non riesca a mettere il tono a 1,5, 1, boh, prova un po'. Aspetta che abbiamo messo le cuffie, proviamo, ecco qua, aspetta, mi fa anche un attore sulla, aspetta, ecco qua, vabbè, non sento un cacchio, ecco, ok, facciamo così, lo abbasso ancora, guarda, lo metto a 1, ecco, qua, lo metto a 1 così, giusto per capire, così va bene, no? Diciamo che sì, forse non è questione dei toni, è proprio la timbrica del microfono. La timbrica del microfono, comunque già puoi alzare un po', l'amplificazione la puoi alzare, perché non sei, non è forte adesso, già puoi migliorarla. Poi te l'ho detto, questo riceve già un po' più acuto del normale, sto baracchino. No, già esce bene comunque, diciamo, è questione di timbri, che a chi piace una, a chi piace l'altra, no? A me i microfoni da palmo non dispiacciono, per esempio Pomponi un attimo fa col Densei usciva bene, bello, bilanciato, né metallica, né gracchiante, né cupa, molto ben bilanciato. Antonetti, sì? Ehi, adesso sto usando il DM1000, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, questo ha toni più bassi. Questo si sente che ha qualche tono più, un po' più di toni bassi. Però il Densei, diciamo, era bilanciato meglio, era quasi perfetto il Densei. Per non dire perfetto, proprio neutro, capito? Cioè, sembra la voce tua naturale. Qua c'hai i toni più bassi, vabbè, comunque con la tua voce un po' di toni bassi ci stanno anche bene, Antonio. Meglio così, là, là. Oh, sono riuscito a trovare il difetto della tua biota. Ogni tanto se andavo era fanculo, spariva. Che cos'era? Era la schedina quella rettangolare che c'è all'interno del baracchino che l'ha messo di saldato. Adesso l'ho saldato e a posto. Adesso lo richiudo la tua tassetta e me lo so bello che tranquillo e asciutto. Adesso mi metto anzi il Isabelta, così compa di più. Aspetta, secondo testa, con questo metta questa verta. Aspetta Marco, allora, mi hai detto posso aumentare leggermente la radio e quindi la portiamo così, come era prima. Ecco qua. La portiamo così. Il tono, se io lo abbasso, guarda, allora, o lo porto a 2 il tono, così a 2 il tono va meglio rispetto a prima. Beh, 2 è come quando sei entrato, no? Dicevo di provare a 1 a 0, fare passaggio, così a 0, così a 1, così a 2. Ma non esce male, è diciamo la timbrica dell'MBP5, tutto lì. E più che altro è la timbrica dell'87, no? Perché... no, così ce l'ho, guarda, così è tutto chiuso, vedi? Così è tutto, è a zero, no? Non mi piace la modulazione. No, no, è vero, la soffoca. Poi sai cos'è, lì il baracchino dipende dal modulatore già com'è, sai. Anche se le modifiche colte si possono attaccare e staccare, mi hai detto, no? A 1,5, 1 va bene, 2 va bene comunque, la comprensibilità è totale, ci mancherebbe. Marco, guarda adesso, cambiato qualcosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cosa verta? Guarda un po'. Molto forte, molto forte. Toni abbastanza buoni, magari parla un po' più piano, cioè più vicino al mic ma più piano, mi. Cioè anziché metterti a mezzo metro e parlare più forte, ti metti a 30 e parli leggermente più piano. Anche quello è molto uguale, il Sadelta è sempre uscito bene. I Sadelta erano dei microfoni da accaparrarsi a suo tempo e non l'ho fatto. Infatti, ormai aveva fatto quello, un sacco di voce. Comunque io sto parlando con la voce della voce mia è bassa e tu quando andiamo al bar non mi senti nemmeno. Quindi a un certo punto sai come sto uscendo. Claudio, se c'ha la 87 è meglio che si metta un Saverta a posto del BBP5 in quell'apparato lì. E come la penso io, esce molto ma molto meglio. Io sto usando la 87 quella al suo, se lo dovessi mettere meglio effetto ecco, sarebbe un buon po', la verità. Perché c'è il tasto, c'è il cavetto più nero e rosso dentro per poter accendere e spegnere nel petto corto. Ma non è uguale, Antonio. È tutto completamente diverso. C'è un sistema all'interno, non c'è solo la scheda, no? La scheda, ecco, ce l'aveva già l'87-600, ecco. Ma c'è tutto un circuito completamente diverso, il Mickey Gain, ce l'ho a metà io il Mickey Gain, e il microfono ce l'ho a due. Se distolgo il microfono è chiaro che la voce aumenta, però non mi piace perché è troppo barattoloso. Devo cercare di chiudere, che è così, guarda, allora così chiudo, c'ho anche il terno più 3, non è quello il problema. Ecco qua, adesso ho chiuso completamente e praticamente ci sono più tonalità medio basse, Marco, così è. Insomma, limitatamente al mio ascolto. C'è tanto mille regolazioni, poco da fare, c'è, comunque vada, a parte mettendo il tono a zero che la soffoca, va abbastanza bene. Poi te l'ho detto, la tembrica può non piacere, per esempio io quando parlavo con il DM1000, no? Quando usavo il DM1000 e poi passavo allo ZG da palmo amplificato, l'M93, che esce più acuta come radio, a voi piaceva più il DM1000. Il DM1000 mi ricordo. Io mi sono anche registrato con un baracchino senza antenna nell'altra stanza per sentire, però alla fine non sapevo decidermi quale mi piaceva di più. Forse, secondo me, se uno è in barra mobile è meglio avere una modulazione un po' più acuta, che riesca anche con un segnale bassino a squillarmi, in poche parole. E poi il DM1000 in macchina aveva dei drammatici rientri di RF, cioè in macchina non lo puoi usare il DM1000, ed è un problema conosciuto. Anche con 4 watt, proprio potenza naturale, niente. Sicuramente è poco schermato e fischiava sempre, anche al minimo, non c'era nulla da fare. Invece in casa non fischia il DM1000, in casa è perfetto. Invece l'M93 va bene sia in casa che in macchina. Per dire, ZG, no, ho pagato 25 euro. Oh, ma sai che non uso i microfoni amplificati da DM1000, da un anno e più che non lo uso, lo stesso lo ZG, l'MB+5, sì, io potrei anche regalarvi questi microfoni per lasciarli fermi. Prego. Adesso provo il coso, l'MB, va. Il più 4 e il terno più 3. Comunque così va bene, dai, non è... è abbastanza accettabile e cosa vuoi dire? È giusto per comodità. È giusto per comodità, dai. Va bene. Avanti, chi è? Beh, Franco, tu sei. Buonasera a tutti, Gianni dalla stazione. Buonasera. Claudio, Antonello e Marco. Com'è, tutto a posto? Sì, buonasera Gianni, ben ascoltato. Ok, va bene, è per comodità Marco, perché il microfono normale mi rompe le palle, dai. Lasciamo questo a tavolo. Comunque adesso provo a voltare più attraverso, se le connessioni sono giuste. Riprendi Antonio, già va bene così, no Antonio? Sì, ma poi ricordati Claudio, non sei tu che ti devi adattare al mio orecchio, è il mio orecchio che si deve adattare alla modulazione degli altri, ci mancherebbe. Ciao già, ben entrato. Stavamo sottolineando come avevi detto tu l'altro giorno, Claudio, con un baracchino, sta usando un baracchino X, no? Diverso da quello dell'altro giorno, però a me piaceva più la timbrica del mic da palmo rispetto a quello da tavolo, capito? Ma è questione di gusti, pensa Claudio che nei microfoni amplificati c'erano le batterie ricaricabili, no? Da 9 volte ricaricabili, 8,4 poi sarebbe, ricaricabili. E devono essere scariche perché da più di un anno che non li uso. Tanto cosa li ho a fare? A rischiare di fare TVI? Non ha senso, siamo in città, siamo a un tiro di balla. Non ha senso usare amplificati, lineari, watt. Sempre solo un 4 watt sto uscendo. Tutto il resto si può buttare o regalare. io sto facendo 5 watt, già feci. Gianni, la modulazione da te ti fa bene? Non è fastidiosa? No, va bene. Visto che stiamo parlando di gusti, preferisco come uscivi prima, sempre per quanto riguarda la mia opinione personale. Ti ripeto, la timbrica è molto telefonica rispetto a quella che avevi prima, questo è sempre il mio parere, poi per carità fai come meglio credi. Vabbè, adesso perché non mi sono sentito col microfono normale, adesso metto il microfono normale, dai. Ehi Claudio, fagli sentire la differenza. Oggi ho già, questo è un baracchino diverso, Ieri l'altro giorno ne avevo uno, oggi è un altro ancora. Ti dirò che a me le modulazioni col mic da palmo, se il baracchino esce bene il suo, certe volte le preferisco agli amplificati. Poi vabbè, la ZG ha una timbrica particolare, diciamo, che può piacere o non piacere. Sì, in effetti è un po', sai, leggermente metallica, come hai detto tu, telefonica, è la timbrica sua. Guarda, c'era un microfono, tanti anni fa, ho visto Mario Me 2, 30 anni fa, era lo Shure, un microfono da tavolo Shure, mi pare avesse il potenziometro, il volume rosso, se non mi sbaglio. Aveva una fedeltà di timbrica spaventosa, cioè tu la voce che sentivi in verticale la sentivi tramite quel microfono, non aveva né tendenze cupe né metalliche, era perfetto, non amplificava molto, la verità, per essere un mic amplificato da tavola, ma aveva una fedeltà folle, era una cosa stereofonica. Vai Antonello. Perché Antonello sta facendo cosa? Questo è il microfono normale o Gianni, va bene? Lasciamo questo? Modulazione normale, la mia modulazione, capo. Perfetto, perfetto. Vabbè, non è che devi cambiare il microfono in base al mio gusto, vabbè, sto scherzando. No, vabbè, io è una questione proprio di gusti, preferisco forse il sound del classico microfono normale, palmale, diciamo, dai. Sì, più che altro principalmente è una questione di capsula, se è buona la capsula poi il resto va da solo. Come stava dicendo Marco, chiaramente lo Shure, stiamo parlando di gente che il microfono li fa da una vita, quindi va da sé che il microfono funzioni bene. Se la capsula è buona, ha una buona dinamica, il resto va da solo. Questo è un microfono normale. Guarda, poi ti do due alternative, siccome questa radio è una radio modificata, allora così è normale, mentre invece così è colta. La preferisci così la mia modulazione o come era prima, l'ambio? No, no, come era prima, proprio natural. vieni Claudio, vai. Questa è una 87, non è come quell'altro. No, ma era una questione di cosa, ho capito, di come si dice, Marco? Vabbè, di comodità, ecco, perché come microfono normale non sono abituato, sto immaginando su 10 radio che io ho, a parte quelle amatoriali, tutte e 10 hanno il suo microfono da tavolo. Le radio Kenwood hanno i microfoni Kenwood, le radio Icom hanno il microfono Icom, le radio Yaesu hanno i microfoni Yaesu. E quindi adesso che questi giorni sto usando questi baracchini, a tenere questo microfono in mano a me mi dà un fastidio allucinante, però ho l'MB più 4, l'MB più 5, ho il Zone più 3, ho l'SBE, il microfono a tavolo ne ha tanti dentro la scatola, devo vedere quello che va meglio e glielo metto. Va bene, mando le ciance. Antonello, l'hai chiuso questo baracchino, come dice? No. Lo sto chiudendo, guarda, adesso sai cosa faccio, dato che mi attiva il chiudo il race, dato che Marco non l'ha fatto, piglio un bel 140 mi prendo, tanto che l'altro si paga il comune. Vai, vai! Mille altro mi, troioso! 3, Ciao Gianni 2, Gianni 2, no, perché ci abbiamo Gianni, vai già, riprendi, il doppio rompo. E io sono il numero uno. Buonasera a tutti, dai. Ciao Gianni, buonasera a tu, sei uno che ha detto vai vai, avanti, vai vai. Lo faccio per io che mi prendo un bel 140. Pago il comune a 200 euro. Vai avanti. Cazzo, hai sempre criticato lo 140, avanti vuoi comprare lo 140. Ciao Gianni. Ciao, sì, ciao. Cazzo, lo pago poco adesso. Sì, sono io il baracchino, quello 87 double fase. Questa è la fase 1 e questa è la fase 2. Cambio. Chiudiamo. E infatti la voce era un po' strana, sembra. Mi dà strana la voce, dai. Adesso ho già fatto un rito. Ne avete poco di stoppa. Con l'eco, Gigi Vultano. Ma anche un po' Massimiliano, ricordi? Beh, radio, tutte da lì arrivano. E questo è l'87. Poi c'ho il Typhoon 2, sempre così, e il 3009. Mentre invece l'altro Ranger è... Allora adesso non ne prendo neanche una più di queste. Ho visto che vanno tutte bene, tutte a posto, tutte ordinate. Stavo provando giusto per vedere se c'era qualcuno da mettere a posto, le vendevo così, invece sono tutte perfettamente funzionanti, allora le lasciamo così. Allora cambio per genere più room, per l'ultimo entratto, fai girare, io intanto vado a prendere dalla scatola il tonno più 3. Io voglio vedere se la connessione va bene per provare, così so quali sono i microfoni che si adeguano a questi baracchini. Vai Gianni. Spegnete i baracchini. Ciao Giulio, qui c'è anche Stefano, ho fatto capolino, stai? Yeah. Avete parlato in due, cos'hai detto già? Ho detto che assomigli molto a Massimiliano. E io ho risposto che tutte da lì arrivano alle radio, tutte da quella zona. Questa era la sua, per capirci. Va bene, mi allontano un secondo, avanti che ha fatto capolino, mi sembra aver sentito anche la voce di Giulio, dai. Sì, vi saluto, ma sto guardando l'allenamento del Vinter. Continuate, vi ascolto, ma sto guardando l'allenamento del Vinter. Tanto busca l'Inter. E ne avete di stoppa. Non ci parlano voi che siete drogati, non ci parlano. Che bastardo, perché siamo drogati, no? Maniaco, manico sessuale. Avete parlato in cinque. Ma ti ho detto manico sessuale, non ci parli con noi, no? No, siete drogati, non ci parlo con voi. Dai, tu siete mi camminete, caro. Io ti voglio tanto bene, ti voglio. È un odioso questo qua. Buonasera a tutti, ben sentiti. Però sei in basso di segnale, sette, non sei tu. Avete parlato in tre, parlate un guasto per volta. Stavo dicendo a Stefano, su uno, su un guasto e mezzo. Che stava uscendo, sono in segnale sette, Stefano. Te, non è il segnale tuo, sei più basso. Non lo so. Cavolo. E poi non c'è problema. Come 7? Se qua è di lusso il segnale. Credo che sia oltre il 9.20. 9.20 sei tu, ma Stefano è 7, di solito Stefano è 9, 9.10. Io ti parlo con l'8.007, questo qua. Perlomeno il segnale è quello. E c'ha ragione Gianni Perru, c'ha ragione. Sì, stai, sì, 9 più 20. Prova Stefano qua sull'87, vediamo. Buonasera Spalliera. Prova un po'. 3, 4, 5 e 6. Sì, 9 più 10 sull'87. 9 più 10 sì sul 440. Non c'è nessun problema. Cappa! Qual è lo switch di Alessio che non fa bene? Ah, non vedete. No, quello è proprio Alessio che non va bene. Sono Smith. Mi cominciate, se non ci mando la facolti qua stasera. Non è lo Smither che non serve, è Alessio che non serve. No Antonelli, sicuramente c'è qualcosa che non va allo Smither, perché caspita, Stefano sì, è arrivato anche più forte, ma oggi è 9.20, ha voglia. È 9.10 qua su 4.40, quindi il segnale reale da me è 9.10, Antonelli. Aspetta, c'ho 5 libri di differenza, forse ce l'hai già detto. Già che faccio la regolazione, cosa io qua, in questo apparecchio qua, c'hai ragione. Aspetta un secondo che attacco lo IAS, attacco subito, siamo a posto, 2 minuti. E questa radio è perfetta, non ho mai cagato nessuno, quindi vai tranquillo, poi ho fatto proprio un commutato per vedere se il segnale è uguale sul K ed è uguale a quello che mi sta dando la 87, quindi è perfetto. Va bene, va bene. Ciao Stefano, buonasera, ben sentito. Gianni della stazione, riprendi, com'era il tuo nominativo, non me lo ricordo più. Guarda, stavo parlando col l'altra sera del fatto, si parlava di svariati anni fa, visto che siamo tutti, insomma, mi avevo il nominativo di Grifone all'epoca, qualcuno ha pensato bene di riproporlo, quindi visto che qua si parla di rapaci. Ma mai questo Grifone, mai lo sparviero non le sta molto bene Grifone. Vabbè, si è accettato questo Grifone. Grifone fa rima anche con naso macchiavone. Avanti, doppio rutto. Anche con Falcone. Naso. Dimmi Gianni. No, stavo cantando. Con cacciatore in mano, con ci manca solo Falcone e siete a posto. Eppure io a Poletto gli avrei piazzato paracchino antenna, tanto ormai non siamo passati i tempi in cui lo facevano a pezzi. Ecco. Salutoni circolari a tutti, Daniele da questa parte. Gava, gava, salutoni, salutoni. Mi stavo ascoltando prima, non sono entrato, c'era il QRM a manetta e molte persone non riuscivo a sentirle. Solo a Claudio sentivo e Marco e basta. Ehi, vabbè, ma io già posso salire anche io, adesso ho messo la potenza alta, già mi senti meglio. Ehi, già va bene adesso, Cla. Anche prima andava bene, soltanto che come eri a bassa potenza, eri a pelo di QRM. Pensa a due a quanto ce l'avevo. Riprendi, Cla. Tu avvisa che io già c'ho il cacciavite qua vicino, tocco il trim e vedi che lo smitti funziona troppo bene poi. Allora se, tutto a posto? Sì, io sto usando il microfono di tavola. Sì, il problema era parecchio, ho attaccato gli AESO adesso, tutto a posto, non ti preoccupare. Cupo, controlla la posizione 1-2 del mic. Adesso è a 1, guarda un po', microfono al mare. Il segnale tuo è a posto, a te tanto Claudio, quindi devo fare la regolazione, io adesso devo 87, quindi 2 minuti e faccio la regolazione. Non c'è problema, tutto a posto, stavo facendo, ho fatto, cioè, le misurazioni sbagliate. Mi pare la posizione 2 sia quella giusta, non me lo ricordo. Cosa hai detto già? Stiamo parlando tutti assieme. Guarda il segnale, la poc'anzi adesso si è cambiato. E poco fa era 9:20. Sempre con questo che c'ha due posizioni, c'è la regolazione anche della potenza 87 che ho io. Questa è la potenza alta e questa è la potenza bassa, cosa cambia? 9:25, 9:30. Va bene, ok, lasciamo la stacchiata. Se ti aumenta il QRM dimmelo Daniele che ha la potenza alta. Avanti Grifone! Sentito Daniele, buonasera. Daniele insieme a Marco hanno il suono che preferisco. Adesso, a livello il suono. Di modulazione. Ben sentito Stefano, se non sbaglio. Ben sentito Gianni. E niente, avanti Marco. Ma perché Marco, meglio di me c'è di radio? No, parlo di suono proprio, di dinamica qualità di suono della modulazione, capito? Ah, così è. Perché io ho le corde vocali troppo alte, Marco invece ce li ha a culo di scimmia, per quello che esce così, basso basso, tutto moscio moscio. Ah, là, si la mozzi! Tu c'hai stoppa e boh. Io c'ho fegato. Fegato di Marruccio. Allora, adesso pari di tutti nati da Rungulo di Lugabiano. Ah, comunque io voglio almeno due o tre di cittadinanza. Ma come te la danno a te? Ah, doppio rum. Allora, boh, di stoppa. Cos'è che stavi dicendo già? Quando andiamo? Ah, ma se ce la fai lì. Quando volete, io non ho più problemi di lavoro, quando volete basta dirlo. Approfittatene adesso che Stefano è ancora in zona, perché penso che tra un po' è vada a Olbia, quindi. Facciamo domani sera, una sera, quando volete, io sono qui. Domani sera, di sabato, no, il sabato è dedicato alla famiglia, io da domani e rientro domenica, anzi lunedì, campagna. Si può fare entro settimana, da lunedì al venerdì. Anch'io già sono in ferie. Mi allontano un attimino, torno subito. Io. Avanti Daniele, riprenditela. Ehi Acra, già sono qua, cavolo. Sto prendendo Mondes a tutte le parti, non so cosa cavolo hanno attaccato oggi. Adesso rientro anche la. Come attacca la caldaia di su, mi entra pure la caldaia adesso. Ma non è che devo spegnere questo baracchino e attaccare il capo, no? No, voi siete a posto. Tu sei. Vai benissimo qua, il problema da me, cavolo, devo sistemare l'antenna. La metto dall'altra parte. Diciamo che in questi giorni mi sistemo quella ringo che ho e vediamo cosa dice, se cambia qualcosa oppure ci spedisco questa qua dall'altra parte su in alto e vediamo. Vabbè, già l'ho vista la foto, te l'ho detto, di questi giorni ti chiamo, ci fa un sopralluogo e vediamo cosa si può fare, Daniele. Vediamo un pochino, non c'è problema. Avanti Antonello sta facendo le tarature con gli occhiali, mettiti gli occhiali, avanti Marco. E poi Antonello c'ha il cacciavite in fondina, tipo pistolero, quando serve tra lo estrae, è fatta, cacciavite veloce. Ehi, scendete indietro. Allora Grifone, non mi piace come attivo la Bonitti. A Porto se c'era uno che si chiamava Killalà. No vabbè, adesso ti ripeto, stavamo parlando dei tempi che furono, quindi non è una cosa fondamentale tirare fuori cose del passato. Va bene quello che c'ho e basta, quindi lasciamo stare. A proposito, sto uscendo pulito o ho sentito dell'alternata? Perché ho spostato l'alimentatore, volevo sapere se sentivate dell'alternata sotto. Per me stai uscendo benissimo, io comunque ti chiamo Gianni, perché intanto a Gianni lo chiamo doppio room, quindi a te ti chiamo Gianni, il tuo grifone non mi piace. Stai andando benissimo, doppio room riprendi. Oh Claudio! Sara! Ho sentito la tua parola al controllo. No, Stefano si è allontanato un attimino per controllare ogni tanto il papà. Dimmi Daniele, cosa hai detto? Stavo pensando se in cima al palo, no, una volta prima di piazzare l'antenna, si mette quella specie di quella staffa a U dove si attacca la parabola, non viene meglio poi a tirarla su il palo, così poi diventa dritto? Anche, però te l'ho detto, devo verificare come avevo fatto da Natale. Devo venire lì, verificare come si può mettere, quali sono le misure, se c'è da preparare una staffa particolare. Bisogna arrivare lì da noi organizzati, non come avevamo fatto l'altra volta, ci abbiamo fatto un mazzo per niente. Devo venire lì, prendermi tutte le misure, verificare, fare tutto quello che ci vuole, perché poi ti ripeto, staff e dubbi ne ho io in campagna, che ho portato già tutto lì. Quindi se serve qualche cosa da modificare, da fare, si può fare. Se c'è bisogno di qualche scatolato, saldatrice, devo verificare, Daniele. E poi ti dico esattamente come la montiamo, però quello è già un buon sistema. Cava, tu dimmi, perché saldatrice ce l'abbiamo, fabbro ce l'abbiamo, il ferro ce l'abbiamo. Se non ce l'abbiamo lo compriamo. No, di roba, Daniele, non devi comprare nulla. Vediamo prima quello che ci serve e sfruttiamo tutto quello che ci vuole, tanto è tutta roba avanzata. Capito? Ci fa un lavoro fatto bene, definitivo, in modo che non lo tocchi più. Però la mettiamo nel punto giusto che si può mettere, dove lei rimane dritta, perfetta, anche se non è alta alta. Siamo quattro gatti per fare due chiacchiere, però la tua posizione è ottima, è una buona zona, quindi dovresti ricevere tutto, come avevamo fatto l'altra volta, però montata in grazia di Dio, capito? Cava e Rogero, va bene, e così vediamo anche che antenna mettere, che insomma, adesso vediamo. Guarda, lasciami liberare che lunedì c'è un'altra bettumiera che arriva il calcestruzzo per terminare l'altro pezzo del piazzale, e come termino quel lavoro ti chiamo e la montiamo questa antenna. Va bene, va bene. Vai, avanti chi tocca. Vai Gianni del trenino. Se volete un po' di sirio, apro la finestra e ve lo faccio sentire. Ma carità. Lo stridere delle ruote sulle rotaie, cazzo, è allucinante. Adesso poi, col fatto che il treno per Alghero, praticamente la tratta per Alghero è chiusa per lavori, cioè il capolinea dei pullman fisso sotto alla finestra, non vorrei fare la battaglia che ho fatto a suo tempo con quelli della TP, che da Rise di Manzano si mettevano ad accelerare qua con i mezzi vecchi qua, un delirio allucinante. È una brutta cosa, io ho degli amici che abitano in Corso Vico e stanno impazzendo con questo rumore di questo cavolo di metropolitana. Vabbè, ma io assisto la borsa al sindaco di Sassari adesso, visto che si è dimesso, ha detto che se la porta a casa la metropolitana e se la mette nel QSO, Marco di Gardena. Avanti Marco. E poi mette ciclato, si mette la, perché poi la metropolitana, il tram, è un tram su binari, nel QSO ce lo mette, giusto? L'ho detto già, le piste ciclabili ci rimuove in garage. Però naturalmente, boh, non lo so, cioè che venga un sindaco nuovo non credo che le levi le piste ciclabili, perché sono soldi cioè si vogliono soldi a farle e soldi a disfarle. Ma in Via d'Italia non ci si può fermare macchina, no? Una volta andavamo alla Coin, andavamo al bar di fronte al policlinico. Adesso non trovi posto nemmeno nelle vie laterali, perché le hanno già prese i commercianti che lavorano lì, capito? È uno schifo. Tutto per far passare un pirla in bici una volta ogni tanto, noi. Poi dice, i fondi europei dice, li hanno messi a disposizione, no? Per la pista ciclabile, ma loro potevano anche rifiutare, potevano dire no, Sassari non è città da fare piste ciclabili, a malapena ci passano le macchine, dobbiamo fare pista ciclabile poi quello proprio in via Gianfarino, no, come si chiama quella via Salendo, con quel cordolo in cemento in mezzo alle balle. Marco, Sassari ha preso i fondi dalla comunità europea, altrimenti andavano persi, esclusivamente per fare le piste ciclabili, per l'adeguazione alla comunità europea, perché tutte le città che sono in comunità europea hanno le piste ciclabili, quindi Sassari è obbligatorio farle, adesso se lo porta a casa, capito? Sai perché si è dimesso tu? Si è dimesso perché non ha preso i voti per salire alla regione, perché Sassari non l'ha votato, ha votato a Ganaro, no? Ed è salito col PD, invece Edula ne ha lasciato a terra, culo a terra, allora per dispetto si è dimesso, ed è un pezzo di merda perché a maggio ci sono le elezioni comunali, quindi poteva rimanere fino a maggio. Invece da adesso, fra 10 giorni, perché il mandato di dimissione è valido 20 giorni, fra 10 giorni arriva un commissario, quindi Sassari non ha più il sindaco, non possiamo spendere soldi, non abbiamo risorse, non possiamo togliere niente dalle casse comunali perché il commissario non te lo permette, e rimaniamo da marzo fino a maggio con Sassari che diventerà uno schifo, a colpa Gioia. A parte che Sassari è già uno schifo, non credo che possa peggiorare più di così. A parte quello che c'è già, tu stai pur certo che senza risorse e senza poter spendere, perché il commissario non ti fa spendere niente, capito? Perché lì per controllare basta, e per avere un riferimento come funzionario del comune, come il primo funzionario del comune, non puoi fare niente. E quindi sarà ancora più uno schifo, ci sono lavori da fare o si possono fare, fino a quando arriva il sindaco e quindi il comune non ci sarà una delibera dell'assessore competente, capito? Sono tutti di me, non c'è né consiglio e né sindaco, per colpa di Tommaso di Gardena, ciccione di merda. Vabbè, però sempre dobbiamo fare cose dell'Europa. Ma non ho visto cos'è Sassari, ma cioè, l'Europa ti dice, fra un po' ti dice che dobbiamo mangiare insetti, che sarà il cibo del futuro, e secondo loro dovremmo mangiare insetti in futuro, che se li mangi la Merkel, gli insetti, e a me questa Europa me ne sta scendendo, questo è vietato, quell'altro è vietato, fa male, e c'è tutta una mafia dietro, per carità. Come la storia dell'olio di palma, ma secondo me hanno boicottato produttori di olio di palma nordafricani per favorire gli amici degli amici che producono altri oli. Lascia perdere. Vabbè, la lasciamo perdere, che la politica intanto non è per noi. Vai, doppio rotto. Ehi, a voi c'è sempre mangiata la pastella che contiene olio di palma, adesso... Ah, passaggio claro. Guarda, vabbè. Sì, fumo scalo, aspetta un secondo, ti voglio regolare. Aspetta un secondo. Se ti vuoi spostare, ti do un riferimento mio. Prenditi il riferimento del digitale col mio segnale e poi te lo riporti piano piano sull'87. Cazzo, sono cose che hai sempre fatto. Non lo so, adesso tu com'era? Ogni baracchino che hai c'ha un riferimento diverso, secondo me. Capito? Quindi, o ti prendi un riferimento di uno che ce l'hai nuovo ed è il quadribanda e te lo porti sull'87. Allora, io sai cosa avevo fatto? Avevo tarato il Santiago 9 di questi apparati come il 140, almeno il 9. Però poi naturalmente i bassi li sballa, gli alti li deve interpretare. L'unico smitter buono è da 140, ma solo lo smitter, per il resto poi. Per il resto è un baracchino a sintonia continua, la sabbia lì. Infatti io già li ho fatti tutti fuori, sì, 80 e 140, ma ora ci dobbiamo pigliare. Cioè 430 e 440, se mi tengo quelli. Non lo so Antonio, se noi ci spostiamo ti metto la portante e ti fai la taratura. Tu sei perfetto, sei sul 3 del... dopo il più della 87, sul 3. Quindi dovrebbe essere un riferimento bene o male quello. Mentre sul 440 sei 9 più 45 normale. Quindi se vuoi riferimento mi puoi posizionare sul 3 dopo il più. Prova Marco un secondo a parlare. Ehi Antonè, guarda un po', tu sei sul 9 più 20 circa, sono con 4 watt, cioè sono sempre uguale io, guarda un po', che poi lì purtroppo quel digitale segna 9 più, ma non ha più 5, più 10, più 20, più 30, anche lì lo devi interpretare un po'. Non è quello il problema, ma sai cos'è quel problema? Il problema è che io sono in pratica al buio adesso e sono, devo perdere con la bocca accanto a, come si chiama, la lampadina. E poi con questo cazzo, con la lente cercare di centrare le cose, capì? Perché non c'ho tutto la lampadina con quella grande, il discorso è quello lì. Aspetta 2 minuti, devo prendere un 2 minuti di tempo e sono a posto. Ma c'è questa parte che ho avuto tutti i cominciato di tutti i modi. Io l'avevo comprato a Furi, quello lì non era una spaccia buttata, che la starpetta. Ma diglielo qual è il problema. Il problema è la tua voce, Marco, non è la 140, no? Assolutamente, assolutamente. Voi Gianni, cioè con il K, avete la timbrica molto, tonalità molto medio-bassa, se no quelle radio funzionano perfettamente. E quella lì, soprattutto quella lì che tu hai dato a quell'altra persona, era nuovissima, nuova. Sì, no, ma io 140 diciamo non mi lamentavo per la modulazione, però la verità mi lamentavo dell'assenza dello squelcina M, perché uso sempre lo squelcia al minimo, tanto da togliere quel soffio di fondo, no? E lì devo mettere l'attenuatore se non volevo il soffio di fondo, oppure mi devo assorbire il crepitio, no, del correme delle macchine, del correme elettrico. Tutto lì, per il resto vattene a beva, era tenuto bene, già lo so già, infatti quello aveva preso quel CB che non entra più, no, come si chiama? Vabbè, adesso non facciamo nomi, ma era rimasto anche contento, mi pare. E l'altro te l'avevo preso io già lo stesso. Io quello l'avevo preso da quando ancora non si erano separati, d'accordo, come si chiama? Che mi avevi dato a me? Ah, io, mi ricordo. No, ma guarda, le radio che giriamo qua, noi, io, Gianni, qualche un altro, sono in ottima forma. Il problema è quando a volte le prendi da fuori che si mettono a toccare la potenza, si mettono a toccare l'LC, poi vai a controllare in banda laterale, zazza all'impicco, in AM e FM invece più basso, qui e là, invece quelle lì erano a posto. Va bene, e microfono per la stazione, avanti, è passato il tram. Sì. Ce ne sono 2/3, poi va bene, entra in servizio adesso il mattino. Sono quelli che arrivano e spengono il motore. Poi ogni tanto ce n'è qualcuno che lascia il motore acceso. Adesso vediamo un po' come si comportano. Se fanno gli stravaganti, prima li redarguisco bene, facendo rivedere l'articolo del codice della strada. E poi facciamo come abbiamo fatto con l'ATP, che abbiamo fatto, insomma, ho fatto una bella azione di forza. E dopo un paio di giorni hanno spostato il capolinea dall'altra parte. Eia. Oppure in ultima istanza bisogna partire di testa gli autisti soprattutto e i controllori, me. No, la volta scorsa, insomma, anni fa, per la questione dell'ATP, praticamente avevano, c'erano quei mezzi, quelli piccoli, i predamenarini, quelli che praticamente avevano tutti i controlli d'aria compressa, altezza, insomma, e praticamente molti di quelli praticamente erano tutti imballati e praticamente se spegnevano non riuscivano più a ripartire e quindi dovevano stare perennemente con il motore acceso, poi alcuni avevano problemi con i freni. Insomma, ho fatto un casino, ho preso i numeri di targa, ho chiamato l'ufficio movimento, cioè non è inammissibile che un mezzo pubblico esca da un'officina accanto in quelle condizioni lì. Cioè guarda, ho aggiunto un casino, alla fine sono andato a sporgere denuncia alla polizia stradale, insomma, non ti dico cosa è successo. Sì, ma poi sono dei pazzi, non pensano anche all'incolumità, delle persone dentro, sì. Aspetta, se non tengono i freni, oia. Mamma mia. Un po' abbassa un po' quell'eco. Sì, esagerato. Buona per adesso. Va bene? Ehi, va bene, ma c'è un leggero innesco. Vabbè, quello è il corso, sa niente. Aspetta un secondo, no? Guarda adesso. Va bene, o stai parlando troppo velocemente. Però va bene adesso, dai, lascia così, non toccare nulla. Ah, ok, adesso segnalo sempre, sei tu. A posto, 9.5 c'è l'importante, già è giusto. Claudio, 9.30, è retto, tutto a posto, va, adesso regolato. Infatti quando fai la volo al buio, cazzo, è un casino, cazzo, esci in testa. Siccome non c'ho la palina, non c'ho l'ente in questo momento qui, io mi faccio la stazione per fare riparazioni e basta, come prima. Quando fai le cose in chiaro, che c'è un proprio vicino, invece non stare il cazzo distante, metterci le cose a un chilometro di distanza, e quindi no, non viene bene, capito? Adesso ho sistemato tutto, va. Va bene, Pompo, va bene, va bene. Eccomi qua, sono rientrato. Oh, a me tenere il microfono in mano, non è che mi viene da sé. C'ho 5 microfoni, tutti e 5 col connettore diverso dall'87. Ma dimmi Duca. Vabbè. Avanti, già riprendi, dai. L'anno 87 a 4, tutti a 4, però il microfono che ho io, il più 3, il più 4, il più 5 va bene, l'abbiamo già provato, ma non mi piace la modulazione. L'SBE, lo Shure, tutti gli altri sono tutti connettori a 4, però sono diversi, da invertirmi, non a giocare, non lascio stare così. Però modulare molto col microfono normale mi si gira le pibilizie, allora ho commutato al 4.40, dai. E si sente. Ma infatti adesso mi faccio un adattatore, quello già senza quel piolino, in modo che puoi invertire sotto sopra, capito? Uno di quelli mi compro domani da fusare, me lo faccio. È facile a farlo, i punti di riferimento sono sempre quelli. Va bene, va bene. Sì, io Marco e io con i baracchini trovo poco, questo lo sto facendo andare perché è l'ultimo che stavo sistemando, oddio, l'ho solo pulito e niente. E poi lo metto assieme agli altri e basta, e li tolgo, tanti baracchini non li uso. Continuo a usare questi miei gioiellini 30-40. Avanti, la stazione. Eia, volevo chiedere a Gianni doppio rumo come gli arrivavo, 1-2-3, 1-2-3. Gianni, doppio rum, mi senti? Ah, aspetta, dicevo, no, niente, volevo sapere come arrivavo lì dalle tue parti. Roma? 1-2-3, 1-2-3 per Gianni, doppio rum, 1-2-3, 1-2-3. Sì, non per questo, Radio 5. Grazie mille. Allora, questo è il 430. Differenza c'è di radio dal 430 al 440? Come modulazione, magari non è allo stesso livello neanche gain, non lo so. No, non ho capito, avete parlato in due con Antonello e Antonello mi crepa tutti. Cosa hai detto Marco? Differenza c'è? No, scusa, ho detto una fesseria io, ho abbassato il volume perché mi stava prendendo la testa, ho abbassato il volume nei minimi termini e quindi il termine paragone non c'è più, dai. Gianni, diglielo tu. Allora, se sono io il Gianni, il menzionato, preferivo prima, era meglio prima. State parlando in sì, Gianni, Marco e Gianni dalla stazione. Cos'è? Allora, questo Gianni dalla stazione è il 430, che è simile al 440, però è completamente diverso, è un radio superiore al 100%, come dice il trasmettitore. Parlo di modulazione, sicuramente le regolazioni sono diverse. Parlo di modulazione, ti piace più questa o ti piaceva più l'altra? Guarda, si equivalgono, più o meno sono molto simili, per quanto riguarda il mio orecchio, quindi non hanno grossissime differenze, sono molto molto simili. Allora ti rifaccio il passaggio, intanto io commuto e basta, le radio sono attaccate con due MC60, qui non devo cambiare niente. Questo è il 430, ok? Adesso mollo la portante, commuto e vado col 440. Questo è il 430, passaggio numero 1, guarda. Questo è il passaggio numero 2, questo è il 440, cosa noti di differenza? 440 tutta la vita. Sì, è decisamente più piena. Questa è nettamente meglio. Quindi 440 prevale sul 430. Vediamo il perché, regolazioni. Mi allontano un attimino per vedere meglio i potenziometri. Allora, il 440 ce l'ho a 1,5. Il 430 è 2, senza processore. Allora, adesso rifacciamo. Adesso rifacciamo perché sul 430 non c'era il processore inserito. Allora, questo è il 440, torniamo indietro. Processore inserito. Mollo e commuto sul 430. Guarda a vedere se c'è differenza. Questo è il 440. Questo è il 430. C'è differenza o sono tutte e due uguali? Sì, sì, adesso si è come l'altro, dai, diciamo. Eh beh, sentiva perché il processore era spento. Vai Gianni Griffone, come ti lo chiamo? Rubrofetta, bene va. Dai, Rubrofetta è poco come nominativo. KK. Sì, Claudio, adesso sono praticamente abbastanza simili, se non quasi uguali, dai. È da te Daniele. Cosa Claudio, sono perso un passaggio, stavo parlando qua a casa. I primi passaggi che hai fatto con due apparati diversi? Sono tutti e due uguali. No, c'è un abisso dal primo al secondo. Quindi il secondo è più amplificato, il primo è modulazione normale, sempre belle, però io preferisco più il secondo. No, ma non avevo il processore inserito, adesso sto andando col 430 e c'è il processore inserito, Daniel. Non mi sono accorto perché l'avevo tolto che era in manda laterale. Quando l'uso in manda laterale lo tolgo, se non spinge moltissimo il 430. Va bene, dai, niente di che. Tutto gappa di rosmetro. Ok, avanti allora. Sì, Rubrofetta mi piace di più, è già. Il tuo Griffone non mi piace, Rubrofetta, già nel Rubrofetta. Avanti, Antonello Alessio, hai sistemato? Sì, tutto a posto adesso. Adesso tutto quanto a posto, non c'è problema. Regolato il segnale tuo e anche quello degli altri. La base giù. C'è male di radio, Antonello, è tutto un innesco. Antonello, stai fischiando, mi sembri Mastro Giovannino Appiuli, quando si metteva a fischiare dal terzo piano per dare reggimento. E adesso va bene con questo qua, sta fischiando? No, adesso va bene. Ciao di nuovo Giulio. Ciao, tutta la sera provando tattico, penso pure che avete fatto. Io mi sono guardato l'allenamento dell'Inter, del Barcellona, eccetera, eccetera. Continuate, dai, che io scendo adesso e vado a mangiare. Ci sentiamo, ciao. Tu mi vai a ridire, mi vai. Quando sei sul canale 20 stai tutta la sera provando il radio. Le proviamo noi sul 10 e non ti va bene. Va bene, manda bene, la stessa, io non mi sto lamentando per quello. Tu casomai gli hai detto dalle mani che tu non dovevi fare prove. Sì, tutta la sera che stai provando. Ma lo so qui, io non riesco a capacitarmi, guarda. Vabbè, due baracchini sto provandomi, ho provato la 87 e il Typhoon, giusto per vedere se stava funzionando, ma poi come vedi siamo passati, è Antonello che provendi a tarà un baracchino tutta la gira e non vi riesci. Vabbè, comunque bada le ciance, ognuno fa quello che le piace, a me non è quello il discorso, che non mi va di fare prove, non mi va di altre cose, vabbè, cose mie personali. Avanti Gianni Doppio Root. Aspetta, non vedo un fatto. Ebbene, adesso va meglio. Ehi, ciao Claudio, ciao, faccio tutta a te. E vabbè, qua siamo per fare i fatti, per fare insieme in compagnia. Va benissimo per me. Per me va benissimo, perché ci vuole un problema, ma non so quale, non è che sia quello il problema. Anche per me già lo sai. No, ma io... perché lui che si è lamentato avanti ieri che stavamo facendo prova, che poi io non stavo facendo nessuna prova, erano gli altri che io andavo a rispondere. Per cui, solo per quello, poi chi se ne frega, ognuno fa quello che le piace, certo, perché io stasera non ho fatto quello che mi piaceva, mi sono guardato l'allenamento dell'Inter, mi sono guardato, l'ho fatto, e dunque, un po' i commenti della ci mancherebbe, ci mancherebbe, va bene, dai, ci sentiamo domani, ciao! Giulia, mamma me la fotti nulla, io ho detto va, perché mamma mi va di andare lì e basta, e metto qua, non sto facendo polemiche, per carità. Qua, io non lo so, non... sempre tu sei Claudio. Io ho capito benissimo, ma siccome... Aspetta, almeno ti conosce, no? La guarda, la Sebastione, perché domani te la devi fare da solo, tu, niente di più. Fabio, dai, niente, non è successo niente, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao, ciao, non riprendo più. Ciao. Ciao. Principale che no, non mi va di spostarmi da qua, io sto nel canale 10 e basta, non mi va di stare da una parte all'altra, quindi no, non è quello il problema. Vabbè, mando alle ciance. Daniele, riprendi che sei rimasto in bianco. Antonè, non sollevare quel cacchio di microfono perché altrimenti mi fai sordo, ok? Vai Daniele. Il microfono è a zero, sto parlando con la bassa voce. Guarda che quando vado al bar, Marco mi sente, solamente le lattine della birra quando si aprono e il caffè che fanno. Figura di vabbè, forse perché siamo vicini, non so, se vende Giorgio. Avanti Daniele, riprendi. Ehi, ci sono, ci sono. Ma Stefano chi è? Stefano il principe. Non lo conosco. Ora niente. Ehi, dimmi Gianni che? Ma sempre quel servizio lo stai facendo? Ehi, già, sono sempre di là. Adesso che sto prendendo un colpo adesso, Sono sempre là, già. Anda lei, anda lei. Vieni da noi, già è sempre aperta la porta. Sì, perché adesso ho ricominciato. Ma sto buttando lui in casa, non posso ce la faccio, ma fa un po' come faccio un po', non posso subire a fare le mani. Prima di avere scaricato, lì sotto una volta che abbiamo scaricato una donna con la finestra più facile, l'abbiamo presa dal quarto piano senza c'è il sole. Ricominciamo. Ma adesso è cambiato tutto già. Almeno noi abbiamo la sedia a motore adesso. Non facciamo più sforzi. Quella sì ce l'abbiamo, quella portantina, ma la usiamo per le cliniche. Poi per i privati abbiamo la sedia a motore che sale e scende le scale da sola. A meno che non ti capiti quella cucchiaio, allora sì, lì già sono dolori, Dani. Chi è? Questa non la conoscevo, la sedia a motore. Quella che c'ha un po' c'ha tipo il cingolo e c'ha il motorino, no? Che lei sale e scende. Però ci ha già va bene, io ci sto vedendo 10 anni lì quasi, che lo sto facendo. Chi è che mi stava chiamando? Avanti. Io ti stavo chiamando, ascolta, io ti chiamo, di, vabbè, insomma con quelli che andavano a fare la verità, comunque sia, te lo direi dopo. Ti chiamo così, non mi... Mi ci porti il costo per Santo Lazzaro, mi faccio fare tutti gli esami, da gratis, capito? Poi mi fai scrivere a questi anonimi, così mi porti direttamente in cosa, in barella, no? Direttamente con la carrozzina. Oh, è questa una tirata fuori, Pompo. Così ci incontriamo, Antonelli, in neuropsichiatria. 450 euro al mese è solo mio, non so se ti rende l'idea. A moglie che va bene, Marco, ci contiamo tutti e due. Quanto sono, Pompo? 150? 150 solo, al mese, no, 450 solo, perché c'è... Sapete per quello che sto dicendo? Gli appresi, quei soldi lì, il figlio di... come si chiama? Te lo dico di a Cla, quello che c'è vicino a casa tua, il tassista, il figlio, quello che c'aveva il furgone, l'ha preso lui, lo sai, 450 euro al mese per un anno ha preso, un anno e mezzo, per risolvimento nervoso. Ma che pinguino? No, non è pinguino, è il figlio del tassista, quello che abita vicino a casa di Claudio, che adesso non mi ricordo il nome, ma detto che c'è l'Alzheimer, addirittura, non sono l'altro, ma cosa proprio di averlo prima, ma adesso c'è l'Alzheimer, fa parkour, se abita prima di Claudio, abita, mi viene Alberto, non manca veloce. Già ho capito chi è, ma non mi ricordo come si chiama. Sì, ma quello ha sempre avuto dei problemi un po' mentali, Antonio, non è che c'erano del tutto, e quindi alla fine poi ce l'hanno tenuto. No, ma lui tira ogni mese 450 euro al mese, addirittura. Ha valutato il furgone, e addirittura c'ha una moglie, e se non mi ricordo mai, due figli. Se mi viene in mente, mi sembra, due figli c'ha, perché abitavo vicino a dove abitavo io. Io ero in via San Donato, lui era in via delle Muraglie, se non mi ricordo male. Adesso sì, ho capito chi è, ma non mi ricordo il nome. Sì. Beh, quello lì, adesso sì, c'è l'Alzheimer. L'Alzheimer, è pensionato, si prende circa 500 euro al mese. Vabbè, è così, purtroppo è così, vabbè. Avanti, la stazione. Sono entrato, scusate, ma ero al telefono fino adesso, ho chiuso in questo momento. Dai, vi saluto, non so più chi è entrato, chi è uscito, non so niente perché avevo il volume basso. Vi saluto cordialmente, buona serata, buon proseguimento. Io vado in cucina, Claudio, lo sai cosa devo fare, quindi vado in cucina. Ci sentiamo magari in un altro momento, a presto, sentirci, saluto per tutti quanti e buona serata nuovamente. A te. Ciao a te, un abbraccio, ci sentiamo, avanti Gianni. Ciao Stefano, ben sentito. No, volevo dire una cosa a Antonello, di lasciare le regolazioni del microfono così, perché adesso, dico, parlo personalmente, riesco a capire quello che dici. Prima invece cazzo era una burotta, eri troppo impastato, non si capiva niente. Adesso va bene così, non toccare nulla che vai bene. Non tocco mai niente io, no, già. Lascio sempre tutto così in questa radio, comuto da una all'altra e sono uguali, però toccate su una non ci avevo il processore inserito, adesso l'ho inserito e quindi la sto facendo andare, sono andato col 430, va bene, avanti doppio room. Ciao, se alla prossima ci sentiamo, fammi bene, ci sentiamo al telefono. KK, va bene che va bene, e sono già le 8 meno 20, fra un po' stacchiamo tutto e ci andiamo a portare il cagnone, cuciniamo, ci guardiamo questo Cagliari Inter a vedere se il Cagliari riesce a vincerla questa volta non si torna a pigliare un'altra cuzzurrada. Avanti Marcolì. Sì. Sì cosa? Cioè, è una frase che dice tutto. Sì, sono d'accordo. No, poi c'è fine del discorso, là, mi sto distraendo con lo smartphone. Un attimo, sto guardando le notizie. Le non notizie. Antone, parla quando non parlano gli altri, mamma mia. E poi Antone, sei troppo amplificato. Si sente la TV, è un Abruzzo. Mi stai facendo sorda, ha ragione Claudio. Questo vuol dire un buon aspetta, adesso a posto, l'ho abbassato il microfono. Andiamo, un secondo, sono un attimo, lo respiri, arrivo subito. Perché la tiene troppo alta, la tiene, lì sapete, bisogna tenerlo per appena basso, se no è un casino. Anch'io poco fa quando ho provato il più 5 con l'ala 87, se tu superi quel tanto è troppo bruttosa, poi diventa brutta, confusa, capito? Meglio tenerlo leggermente più basso. Avanti Daniele, riprendi. Ci sono, sono appena tornato qua, me l'ho chiamato un attimo in cucina, dai. Comunque che interesse, io ho un Expander 500, però non mi ricordo se le manca la capsula, e un Tanner MB più 5. Tanner MB più 5 non ve ne è, ZG MB più 5, Tanner più 3. Così è qua, sarà, però c'è un più 5 mi sembra. ZG MB più 5, quello della ZG. Tanner e Tanner più 3, Tanner più 2. Quello è un'altra cuba, io ce l'ho il Tanner più 3. Io ho due addirittura, ma non riesco a mettere manco uno su questi baracchini che ho. Però scusa, sono tutti modificati. C'hanno tutti l'attacco uno di verso all'altro. Solo l'MB più 5 andava bene. Però la modulazione non mi piace, è troppo brutta. Va bene. Avanti, Grifone. Lu Broffetta. Ehi, Acla, per correttezza, il passaggio precedente, quello che ho fatto prima, non era rivolto a te, era rivolto all'Antonello. Volevo dirgli di non toccare più la regolazione del microfono, perché era veramente scandaloso come usciva prima. Adesso ho visto che l'ha messo a posto e volevo dirgli di lasciarlo così, in sostanza, dai. Ma io devi scrivere Antonello già, perché altrimenti fra due minuti lo ritocca. Non ti preoccupare, già sono qua, non ritocco niente, non ti preoccupare. Allora no, Duca, lascialo stare così. Sentite la bloffetta, la ti ha detto. No, la verità no, non ho sentito, comunque rimane la tartura così come ho fatto poco fa. In pratica Claudio è più forte, quindi a un certo punto la 930 è a posto, la tavatura è giusta, perlomeno poi il microfono e il saletta, già lo sai, io purtroppo c'ho la voce bassa e Marco già lo sa. Il discorso è questo, il tipo dell'apparecchio, questo qua pompa più degli altri, il discorso, non posso farci niente. Invece se io attacco, dovessi attaccare il limite, a posto di questo qui, il termine del valore cambiano le cose, è un'altra cosa, capito? Si ascolta meglio questo microfono qui. Sbaglio. No, Antonio, stai spingendo benissimo, lascialo stare così, non toccare. No, poc'anzi quando ci avevi tutti quei fischi e fiaschi, è lì che Gianni ti stava dicendo appunto di... Adesso che hai trovato la regolazione, lasciala stare così, va bene. Ottimo per la truppa. Va bene. Marco, riprendi. Bianco, un secondo. Ok, io parlo un attimo, devo scrivere, poi arrivo subito, quindi sentiamo per poco, va. Faccio a te. 10 minuti e torno subito. Non c'è mai l'elicottero a bandare l'aerospin, 10 minuti, ci vuole 10 minuti a scendere, 10 minuti a salire, se non 15 e 15, più deve fare la fila alla cassa, devi comprare, tu manca l'8:30 sei a casa, vabbè, doppio rumore e prendi. E come ti sono prima dell'8:30 a casa? Fregate, detto, a meno che non ci va roba e ti telefono, il discorso è quello. Telefonami. Avanti, doppio rumore, avanti, no, io altri 5 minuti, 10 minuti prima sto andando. esco col cane, poi si cena, mi guardo la partita avanti, lo più lungo. Sul primo, sulle reti normali ci sono altre cose, non c'è problema. Ho detto che per me non c'è nessun problema, adesso mi sento con Stefano e poi te lo dico, non c'è problema. Capito? Detto così a quest'ora non è che ho altri impegni, adesso è già preparato eccetera, ma se ci organizziamo da lunedì a venerdì, diciamo tal giorno si va, non è un problema, anche perché ti ripeto, Stefano è ancora disponibile, poi penso dal prossimo mese si trasferisca ad Olbia e quindi è impegnato col QRL e non c'è, però già lo facciamo, dai. No, se non andiamo da Martino, ma non c'è qualche cosa, qui io sono un giorno, io non ci vado, c'ero andato una volta con alcune persone, poi non siamo più andati. Beh, andiamo dove siamo andati l'altra volta, possiamo andare, andiamo, da qualche parte andremo, dai, non ti preoccupare, adesso sentiamo cosa dice Stefano, Marco ha ritirato la pensione, quindi può venire, lo diciamo anche a Lombrofetta, capito? Daniele, vieni, così le tagliamo la barba, che c'è la barba lunga. Pensione non è mia, io soldi non ne ho. Claudio. Tu oggi non è uno, hai ritirato la pensione, conservateli, no? E cosa frego, i soldi a mamma. Casomai glieli posso chiedere, se mi lascia 30 euro. Vabbè, dai, già pago io e Gianni paghiamo, vero Gianni? No, non è corretto. Se vengo devo pagare io, ci mancherebbe la mia parte. Cosa devo andare a spaffo? Ma non è un problema per noi. Mettiamo 15 euro io, 15 euro Gianni e tu puoi cenare tutto quello che vuoi, vero Gianni? Non c'è problema. Allora vedi, quindi di cosa ti sei preoccupato? Adesso decidiamo il giorno, poi ti avviso e a tutti i dinni del resto, tutto il resto è noia. Lo profeta ci viene a mangiare con noi? Da vedere, non è che sto navigando in buone acque in questo periodo, quindi insomma, se mi è possibile molto volentieri. Vabbè, noi paghiamo a Marco, a te te lo paga, te lo facciamo pagare da Daniele. La capitino, scherziamo, scherziamo. A proposito di Daniele, ha fatto un fischio poco fa, avanti. Daniele ha fatto un fischio, se non sa fischiare. Oh, ho sentito che ha chiamato, ha soframodulato e poi è sparito. No, prima aveva chiesto un attimo di bianco, forse si doveva sentare. Daniele? Ma cosa soframodula Daniele a te se c'ha un antennino del piffero? Sarà qualcuno dalla zona verso Gianni? Ah boh, no, prima quando c'era bianco aveva chiesto un attimo di bianco, forse doveva comunicare qualcosa. Bene, dai, riprendete. Sì, Daniele, l'avete castigato. Daniele, avanti. Già, io non ho sentito niente. Magari voleva chiudere, voleva salutare, dai, non c'è problema, ce l'abbiamo fatto. No, ho capito, bianco un attimino, arrivo subito, quello sì. Però da Gianni in Blofetta dice che hanno fischiato, io fischio ne ho sentito, forse qualcuno che ogni tanto c'è qualche canarino che fischia, capito? Per far vedere che sovramodula, ma... Io ho sentito praticamente una sovramodulazione, un fischio con una voce sotto, mi è sembrato lui, poi Sì, vabbè, se vuole entrare già siamo qua, il canale è aperto a tutti. Non fredda, come la senti la radio mia? Scusa, ero distratto, vieni avanti. Ho detto, come mi senti di radio? È buona, va benissimo. Oggi riesco a capirti meglio rispetto ad altri giorni, forse anche per questioni di QRM e altro. Anche i pochi passaggi che ha fatto Giulio, oggi Giulio lo sentivo molto ma molto meglio rispetto ai giorni scorsi. No, no, va benissimo Gianni. No, per vedere se devo regolare il microfono magari. anch'io pulendoli, 2060, ne ho lasciato, adesso mi ricordo se quello del 430 o quello del 440, uno degli 2060, no no, quello che ho sul, sulla radio VHF. Accendo la radio, rimaneva importante, la bigliava a colpa, dice, ma cosa cavolo gli ha questa? E c'avevo l'occhio inserito che. Sì, a me è successo un po', sì, a me è successo. E io solitamente parlo con un presidente, a dire, non è stato toccato il microfono, sto parlando così, e poi una volta che finisco di parlare, no, non è stato, se no, ogni volta attacco questa mano sopra il microfono. Infatti le prove che facevo stasera, soprattutto con i baracchini, era cercare di adattarle a un microfono a tavolo, perché quando li uso hanno tutti il microfono normale. E invece la sfiga è che non ce li ho tutti con diversa connessione, solo l'MB più 5, quello che avevo comprato da Gigi Vulcano, che va molto bene, è nuovo e funziona benissimo, mi fa la modulazione troppo acuta. Capito, essendo una radio modificata le fa la modulazione troppo acuta e quindi l'ho staccato. E quindi erano quelle le prove che stavamo cercando di capire, di vedere con Marco. Però poi io spengo e torno alla normalità con i miei MC60. No, voilà, con le radio lì ci vuole il microfono normale, con le radio modificate i microfoni amplificati non vanno bene, anche perché i mescano. Vanno bene solo i microfoni normali, quindi la CTE, quindi la Fayette, quindi io vabbè, io ho un microfono normalmente, in quello che ci vuole, che va molto bene. Passo da una cassa la CTE e cosa ho la Fayette. No, ma questo se tu lo vedi non modifica, non se ne vedo. Non ce n'è di eliminazioni, FM, squelch, no. L'87, non so se lo conosci, c'è il tastino, c'è tutti i tastini in alto dove c'è Roger Mip, poi c'è il tastino off, ecco, tutti di su dove c'è scritto ecco e si inserisce la scheda colt, non ne ha modifiche. Quindi io quando lo tengo chiuso, nel senso abbasso l'interruttore, la radio è normalissima, non fischia assolutamente, solo che la modulazione non mi piaceva già, era troppo acuta, modulazione molto barattolosa, evidentemente non si adegua quella capsula lì a quel tipo di radio, mentre invece per esempio sulla LAN 48 va molto bene, sul 3009 va molto bene, sembra questa modulazione, lì non mi piace, e allora uso il suo microfono normale, che è il suo normale, però è abbastanza buona come modulazione. Cercavo di fare questa modifica, questa cosa, non ci sono riuscito, pazienza, adesso le farò un adattatore per usare, magari provare il Tamer più 3 per vedere se va meglio, e va bene. Ok Marco, riprendi, dai, poi io faccio un ultimo passaggio e me ne vado. Avanti Marco. Sono rientrato. Vai Daniele, vai tu, dai. Sotto. Cosa già? Come fai a mettere i canali sopra e i canali sotto? C'è le bande A, B, C, D, E, F. Ma è... Non lo conosco. E niente, cosa volevo dire? Poi più in là, che io di nuovo mi dovrei attrezzare con le radio, perché ho tutto adatto, tutto, me ne sono pentito, se riesco a farle rientrarle, va bene. Mi calma, sta prendendo tutto qua, no, DAC, no, radio più serie, voglio. Se non è mai la scrivita da niente, non c'è niente. No, baracchini io c'ho, Gianni, io ho radio non, adesso te la mando la foto già. È normale, è una radio normalissima, non ha nessuna modifica. Dove c'è scritto ecco, proprio dalla casa, c'è il suo tastino, off, ecco. Tutti di su l'ecco, perché ce l'aveva, ce l'ha già, ok. Anziché inserisci l'ecco normale, si inserisce la scheda colt. Non ha nessuna modifica quello, c'ha tutte le sue bande, M, FM, tutto, non c'è niente, Mickey Gay, dov'è il refed, tutto normale. La scheda ecco è in automatico col suo tastino. Adesso te la mando. Già l'ho visto com'è quell'apparecchio, io già l'ho visto. Va bene, è che qua, cavolo, mi devo rifare un soppalco. riappropriarmi della mia sottospecie di stanza con tutta la radio, capito? E così poi più in là, se Dio vuole, posso fare la stazione non come prima, ma meglio di prima. Ma niente, se me lo dicevi ti potevo dare una mano, perché io avevo un bellissimo 440 che mi hanno dato a vendere ad un prezzo allucinante, ed è stato preso da un amico che tra l'altro se l'ha portato anche fuori ad un prezzo allucinante, capito? Dico solo, non arrivava a 300 euro, nuovo, ma nuovo come questo che sto usando io, bellissima radio. Siccome non era la mia, il prezzo ha detto che voleva quello, e quello io gliel'ho venduto. Infatti se l'hanno comprato al volo, era da prendere, capito? Era da prendere. Poi per MC60 gliel'avremmo procurato uno, non ce n'è problema. Ne ho uno io che non sto usando, del 780, che non la uso mai, e te l'avrei dato, no, ad usarlo. Non te l'avrei venduto, ma te l'avrei prestato ad usarlo, capito? Lo dovevi dire prima. Se hai intenzione, se sento qualcosa, te la procuro una radio come Cristiano. Già, ma là. Adesso vediamo, dai, tutto da vedere in base come si evolvono le situazioni del budget. Perché qua io ho studiato tutto, poi già sai cosa sto facendo, e quindi se voglio continuare a fare quello che sto facendo mi devo attrezzare, giustamente. No, ma prima non fa come te Ugoso, prima portati a casa quella cosa che stai facendo adesso. Una volta che ti hai portato a casa, te lo dico non per esperienza, perché io ho fatto 20 anni a pirata prima di essere animatore, però sto dicendo, portati a casa quello che stai facendo. Una volta che ti hai portato a casa quello, pian pianino, una volta compri una cosa, una volta compri un'altra, perché usato per fare quel sistema lì si trova tantissima roba senza nessun problema, capito? Quello sì, infatti non mi sto preoccupando più di tanto, cioè hai pienamente ragione. Prima bisogna portare a casa quello che sto facendo e poi pian piano si organizzano le cose. Va bene, anche contemporaneamente devo farmi lo spazio per mettere l'attrezzatura, giustamente. Che quello già tutto il programma. Poi il budget permettendo si fanno le cose. Sì, ma infatti, un po' di tempo fa già, aiuto, se non ti stavo manco riconoscendo, per carità, beh, nei 60, fra poco, da 19 ce n'è passato il tempo, belle foto, l'hai vista già, è una radio normalissima, non ha nessuna modifica, non si vede niente, c'è solo il tastino suo e basta. Sì, la nostra voce più che ha dato la Peugeot, aveva la Peugeot 104, prima la 500L, poi la Peugeot 104 era nuova, e vabbè, i vecchi sono così, il mio suocero c'aveva la 406 della Peugeot, la miraglia era uscita, la 99, e ora l'avevamo l'altra, usavamo, facciamo noi mia zia macchina da viccio. Va bene, signori, sono le 8, dai, io vi saluto e porto il cane, e poi me ne vado a cenare. Un saluto circolare a tutti, anche a quelli che stanno ascoltando. Ciao Gianni Obloffetta, Daniele, ci aggiorniamo, Gianni Occhiorum, Marco, salutatemi Antonello quando rientra, e Giulio se sia ancora all'ascolto. Buona serata anche a te. Dai, ci sentiamo, ciao a tutti, a domani se coincide. Riprendi Marco? Chi è che sta chiamando da lontano? Questo è Giuseppe Ranchero, mi sa. Giuseppe, mi copi? Caspita, dopo tanto. Meno male che non c'è QRM, riesco a sentirti bene, dai. Ehi, a Claudio, dai, buona passeggiata col cane. E anch'io chiudo adesso, dai, che pillo un caffè, oggi è stata veramente tribula come giornata. Dopo aver passato la notte in bianco ero a Pezzareddi, anzi di più, e quindi voglio stare sveglio per il film e poi cerco di recuperare. Ok, chi è che lo copia? Dunque Gianni Doppirun lo copia, Gianni lo profeta lo copi Giuseppe Dalghero. Oh ragazzi, riprendo io che anche io sto chiudendo, dai, che qua mi hanno già chiamato, ci sentiamo alle prossime se coincide, dai. Ciao ciao! Ciao Dani, chiudo anch'io, dai, buonasera anche a tutti, ciao, a domani. Ciao Daniele, ciao, alle prossime. Gianni? Ciao Giuseppe. Dai, già sentiremo. Arrivi Santiago 5, modulati 6. Santiago 6. Meglio di altre volte arrivi, dai. Dai, già sentiremo in migliori condizioni da parte mia, eccetera. Gianni, doppio rumore, si sta chiudendo, dai, sentiamo. Che sono... Mi sto bioccandomi un pochino. Piglio un caffè, se no... Qua dormo dalle 9, riesco a dormire alle 9 e svegliarmi alle 3 di notte. Chi altri c'è qua? Chi ci è rimasto? Marco, anch'io faccio QRT, dai. L'amico di Alghero è proprio, io non riesco a tirarlo fuori, è molto basso, quindi proprio zero, non ho niente da fare per me. Comunque un salutone se mi sente. E niente Marco, un saluto a tutti quelli che sono rimasti, alle prossime. Ok, buona serata anche a te Marco. Io, ciao Gianni, dai, sentiamo. Poi appena potrò entrerò, dai. Che sono molto, troppo incostante nell'entrare in radio. Certi giorni proprio non ho voglia, non sono nemmeno in cosa di parlare. Va bene, dai. Buona serata, buona cera, buon tutto, dai, sentiamo le prossime. Ciao a tutti, ciao.